Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ehi David, ma lo sai che l'anagramma del tuo nome è Davide Parenzo e danza Proverdi e che quindi nella tua anima è nascosta un po' di Lega e quindi nel tuo futuro, se non lo fai già adesso nel buio, nel segreto della cabina elettorale, c'è appoggiare Salvini e tutta la sua banda. Parenzo, fai tanto sofisticato su quella che chiama, che squirta, e poi ci tieni tutta la trasmissione aggiornati sugli stronzi che galleggiano sul tuo cesso, ma dai, e poi non hai neanche, sei talmente spidorcio che non chiami neanche un idraulico, chiami il tuo amico albanese che te lo fa gratis, ma vai a cagare, vai. La Zanzara sempre in diretta anche il 3 giugno in questo ponte, caro Parenzo. Siamo qui al chiodo. Chiamate. Numeri di telefono. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Oggi sono carico, sono molto carico oggi pomeriggio, carico. Tu invece sento una voce, non dico assente, quasi assente. No, mi rattrista sentire questi miserabili che lasciano messaggi nelle segreterie delle famiglie. Mi rattrista perché è un quadro dell'Italia sconfortante. Ma andiamo avanti perché il peggio deve ancora arrivare, immagino. Andiamo avanti. E infatti arriva con la signora Boldrini, con la signora Boldrini. Perché che succede? Succede che ha fatto la terza carica dello Stato. No, c'è questa storia dei drappi rossi per Sara contro il femminicidio, contro l'indifferenza. Una puttanata enorme, sesquipedale. Sentiamo la Boldrini, hanno messo tutti i drappi rossi contro il femminicidio, contro l'indifferenza. Ma a cosa serve? Per far sentire anche il calore di una città, la famiglia di questa ragazza. Ma a cosa serve? Per non far sentire sola questa famiglia di fronte a questo delitto efferato. Ma è tutto basato sul nulla. Anzi, ti dirò di più. No, ma è una testimonianza di vicinanza nei confronti di una famiglia anche. Prima dai, sentiamo la Boldrini, poi ti dirò perché è tutto sbagliato. Non far sentire sole le persone. Sai che gliene frega quelli. Invece ai violenti dico rassegnatevi, perché noi non rinunceremo mai ai nostri diritti. Noi donne e le nostre ragazze non rinunceremo mai alla libertà, quindi rassegnatevi. Io penso che dopo questo annuncio in Italia ci sarà una diminuzione di omicidi nei confronti delle donne, perché le persone capiranno davvero cosa bisogna fare nella vita. Penso che sarà fondamentale questo annuncio del presidente della Camera Boldrini. Credo che sarà anzi decisivo. Ci sarà una diminuzione drastica dopo questo annuncio del 50%. Guarda, vorrei dire una cosa che non dico perché sennò mi becco una denuncia. Lasciamo perdere. No, ma la verità è questa che è stato scoperto oggi, cioè è venuto fuori oggi che la famiglia di Sara sapeva da diversi giorni. Anzi, è venuto fuori che è stata aggredita una settimana fa. Sì, beh, c'è una settimana fa, sì, certo. Una Anche settimana il video fa che incastra, è stata. Vabbè, certo. No, c'entra il video, una settimana fa era stata aggredita, era stata già aggredita. Sì, sì, sì. Poi ci sono sms continui, una telefonata ogni 10 minuti, l'ossessione di quest'uomo. Ma io dico, una piccola segnalazione, dico, una adesso non dico che è la responsabilità di chi non ha avvertito, certo, perché la polizia e i carabinieri non è che potevano fare la scorta a questa ragazza. Appunto, ma possibile mai che una settimana fa era già stata aggredita? Ci sono stati telefonati, ci sono state telefonate continue, eccetera. E nessuno ha fatto niente. Nessuno ha fatto niente. Purtroppo, se la ragazza magari non ha denunciato, ragazzi, direttamente. Però, dai. Senti queste voci da Napoli, eh? Senti queste voci da Napoli di persone che hanno occupato un convento delle serve di Maria. Meraviglioso, eh? Cioè, a un certo punto delle famiglie, eccetera, hanno occupato una parte di un convento, perché... Beh, vabbè, questo. No, ma questo è un cazzo, che vuol dire? Cioè, sarei quasi tentato... Dici, sarei stato... Non dici sempre tu, esatto, abite la chiesa, apra le cose... Questi, sì, d'accordo, però hanno, con le regole... ti con... hanno preso in parola, perché ascoltano la Zanzara, ti hanno preso in parola, e ora ti assumi la responsabilità di aver detto di occupare le chiese. No, io non ho detto, quindi, io non ho detto occupate sempre, le chiese, ecco, no, quindi, ho detto che la chiesa, secondo regole ben definite, dovrebbe accogliere nei suoi numerosissimi locali sparsi in tutta Italia, nei suoi innumerevoli possedimenti immobiliari, no, dovrebbe accogliere lei, non è che tu vai a occupare. L'occupazione è una cosa diversa. Che lo facciano, ma no, ma non ho mai detto l'occupazione. Comunque, senti queste voci incredibili solo a Napoli, eh? Senti. Ma le sole hanno tutto lo spazio e tutto il diritto di pagare. Infatti, noi non siamo nel lato dove le suore poi abitano realmente. Cioè, questa è la premessa di questo signore che ha occupato una parte del convento delle serve di Maria, a Napoli. Beh, le suore hanno il loro spazio dove pregare. Ci mancherebbe pure, senti. Ha detto Papa Francesco, aprite le porte ai poveri. Padre nostro ha fatto entrare a noi qua. Beh, questo è eccezionale. Il Padre nostro ci ha fatto entrare perché lo ha detto il Papa. Perché lo ha detto il Papa. Cioè, non l'ho detto io, l'ha detto il Papa. Crociane, l'ha detto a Crociane. Questa è l'interpretazione delle parole del Papa da parte di un gruppo di famiglie napoletane che si sono introdotte dentro un convento e lo hanno parzialmente occupato con queste ragioni. Senti. Assolutamente, anche il momento nel quale siamo entrati nella struttura era volutamente, diciamo, un momento delicato. Siamo entrati nel Giovedì Santo. Vi cacceranno? Secondo me no. Se vogliono spostare le case che aspettano a noi, sì, cacceranno, no. Che siamo i cani? E che siamo i cani? Ragazzi, su, dai. Allora, torniamo su cose che riguardano la politica con Benigni. C'è un attacco pazzesco nei confronti di Benigni che viene da tutti quelli che voteranno no al referendum di ottobre sulla Costituzione, perché chiunque dica voto sì, questa è una cosa incredibile, è un infame. Cioè, chiunque dica voto sì al referendum non è perché è convinto di questa roba qua, no, perché ha qualche interesse, perché è un infame renziano, perché le calcola il governo, eccetera eccetera. Ma vi pare normale una cosa del genere? State a sentire quello che dicono le persone, no, prima di dire certe cose. Dario Fo, che non se ne capacita, che non si capacita del perché Benigni pazzesco, abbia detto alla fine che vota sì. Ma sarà una sua opinione che ha maturato, no? È un'opinione che interesse ha Benigni a leccare il culo a Renzi? Sì, diciamola, Benigni non ha bisogno di Renzi ormai. Non dico che a fine carriera, ma insomma ha fatto quello che ha dovuto fare. Ma scherzi, ma è un artista, che gliene frega lui? Non gliene frega un cazzo di Renzi, no? Cioè, non credo che non gliene freghi nulla. Che vantaggio può ottenere Benigni altre? Perché se dice che vota no, non può fare altre serate sulla Rai? Ma di che parliamo? Dai, ragazzi, è veramente una puttanata questa. Benigni avrà maturato il fatto che vota sì. Per me è sempre stata una stupidaggine l'uso politico degli artisti, però per carità. No, ma in questo caso non c'è nessun uso politico. No, c'è l'uso politico che i politici fanno degli artisti. Sì, allora, in questo caso però c'è stato un uso politico dei calciatori, perché la storia di Buffon è abbastanza incredibile. Cioè, Renzi, che cita Buffon, il capitano della nazionale che sta per partire agli europei di calcio. Questo, assolutamente è assurdo. È una follia. Sì, che cazzo Buffon citi Buffon? Si occupi di parlare. Ma no, ma Buffon può anche dire la sua. Ma può sì, anche ovvio, dire la sua. Ovvio, ma che Renzi cita anche Buffon, dice che voterà sì, è ridicolo, no? La possiamo rivedere seguendo scrupolosamente le regole che l'articolo 138 prescrive. Quindi se si seguono le regole si può cambiare. Naturalmente bisogna cambiarla bene, pensarci, ed è un'occasione straordinaria questo di questi giorni di cui si fa un gran parlare, perché ognuno di voi, perché ognuno di noi rifletta e prenda le sue decisioni in totale serenità. Ha ragione Ferrari, è un po' paraculo Benigni, perché vuole dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Cioè dice voterà sì, però nello stesso tempo dice no, bisogna cambiarla bene la Costituzione. Ma è evidente, cioè, non mi pare una cosa così rivoluzionaria che merita di essere sbertucciato. Senti ancora Benigni. Però, che carino. Niente intoccabile, se no volevo dire, certo che è un paradiso la Costituzione, ma un paradiso dal quale non si può uscire diventa un inferno, insomma, no? Quindi si muove, respira, si può fare tutto, però bisogna farlo nel migliore dei modi. Vabbè, quello d'accordo, cioè il migliore, questa è una banalità colossale, ragazzi, diciamo la verità, quando uno dice bisogna farlo nel migliore dei modi, ma che vuol dire? Certo, chiunque modifica la Costituzione pensa di farlo nel migliore dei modi, non è che esiste il miglior modo possibile secondo chi? Cioè, chi è che giudica qual è il miglior modo? Ma di che stiamo parlando? Forse qualche volta veramente si dà un peso eccessivo alle parole di Benigni, che dice delle banalità. Ma ti assicuro, mia madre che non sa un cazzo di Costituzione, dice delle cose. Non sa un cazzo perché non gliene frega niente. Giornali, ma non legge più un giornale. Dice delle cose più sensate di Benigni. Dice delle cose molto più sensate di Benigni su questo tema qua. Te lo posso assicurare. Ma uno dice bisogna cambiarla bene. Che vuol dire? Ma grazie che bisogna cambiarla bene. Non è che uno la cambia cerca di cambiarla male, ma è normale. Ma poi chi è che giudica bene o male? Ragazzi, siamo veramente all'assurdo. Si dà un peso alle parole di Benigni che è incredibile, ma non solo a Benigni, a un sacco di altre persone. Vabbè, adesso divertimosi un po', va. Giachetti dice di essere stato corteggiato, candidato sindaco del Partito Democratico a Roma, come sapete. Dice di essere stato corteggiato dai gay una volta, da uno o due gay, non mi ricordo. Io sono stato abbastanza corteggiato dai gay. Una volta, penso si tratti di 20 anni fa, ma in cui stavo con degli amici all'Alibi e uno a un certo punto mi voleva praticamente violentare sul tavolo. Abbiamo discusso un po', poi gli ho spiegato che non era il caso. Quasi violentato dai gay all'Alibi. Adesso ci saranno quelli che diranno no, cioè, ma che dici, lo stupro dei gay, eccetera eccetera. Quasi violentato dai gay all'Alibi. Tu non te lo ricordi l'Alibi? No. Amico mio, l'Alibi, l'Alibi a Roma, amico mio. Una più volta era più eccitante quello, secondo te, o un convegno di Zagrebelsky sulla Costituzione? Beh, ragazzi, dai, su. Ma può avere anche la sua perversione il convegno sulla Costituzione. Ecco, può essere anche perverso, puoi incontrare delle persone lì che hanno il sapore della perversione della, no, della certo, del diritto. Sì, delle, queste no? cose qua, però, insomma, la sera dall'Alibi è la sera dall'Alibi all'epoca, Oh, Berlusconi poi ieri che cosa aveva detto nei giorni scorsi a proposito sempre di sesso? Uno mi ha detto scopale tutte, ma senti. Tre persone mi hanno detto manda a casa Renzi. Un altro mi ha detto tieni duro, non mollare. Un altro mi ha detto una cosa, ma devo deluderlo. Sapete cosa mi ha detto? Silvio scopale tutte. Mi spiace, non posso accontentarlo. Ormai sono fidanzato. Del parere di Benigni mi interessa come quello del panettiere sotto casa mia che voterà no, onestamente, anzi probabilmente il panettiere è un po' più coerente perché era per il no prima e per il no adesso, però... Traffio una se... La Zanzara. Ragazzi, si candida veramente chiunque in Italia, si candida chiunque. Sentite questa cartomante, già una cartomante però, No, cartomante. Vabbè, prego, ho capito, no. Ma perché cartomante? Ma no. Perché? Una veggente, una cartomante? No, perché in non particolare si può... non sì, è sì. Semplice, uno dice, si candida una cartomante, dice vabbè dai ci manca vabbè, la cartomante. La signora Serafini, vabbè, d'accordo. Lisa, ma non Serafini. È semplicemente una vabbè, cartomante. Si candida con Casa Pound a Roma. È vabbè. Una cartomante neofascista. E va bene, dice, d'accordo, ma che gli vuoi fare? La vuoi ammazzare? Passi per la... No, io ammazzavo non ammazzo nessuno, erano i fascisti semmai che ammazzavano i dissidenti. Io dico, vabbè, però sostiene una cosa molto semplice, sostiene che la fine del mondo sta arrivando. Sì. Signora Serafini, che si dichiara fascista e sono nazista. Entusiasta, sono aspetta. Entusiasta. Credi alle profezie di Nostradamus? Sì. Ci siamo? Secondo me sì, spero di sì. Credo che più che un mondo così, proprio per i miei nipoti e i miei figli, spero che succeda qualcosa di tremendo. Tanto prima o poi succederà. Mamma mia, ragazzi, io intanto mi sono toccato lì con gli occhi a pelle proprio. Ragazzi, belle. Con questa, le mani come si dice, a pelle. Nera, come si dice. No, ma nera, io so, nera. Ti giuro, sono così con le mani a pelle. Già cioè, nera. Ho messo nera. Le mani, ma fai anche tu le mani a pelle. Cioè, le no, mani a pelle. Vabbè, c'è quello che sto facendo di io non te lo mano racconto, a però pelle, tocco, a sì, pelle. Sì, ecco qua, a pelle. Il microfono che lo sto toccando che è ferro con le corna. Sì. Porca puttana, ragazzi. Senti o no? No, ma senti la voce pure, la voce è stentoria. Risentiamo questo appello: alla fine del mondo sta arrivando. E poi ma questa era considerata Dio. Qualche anno fa, 13-14 anni fa, la cartomante cosa? Dei VIP. Anche cioè la cartomante dei VIP, cioè ancora dice lei c'è una specie di processione da parte di vari personaggi per farsi no, prevedere il futuro, eccetera. Senti, e risentiamo questa cosa perché fa veramente mi vengono i brividi. Credi alle profezie di Nostradamus? Sì. Ci siamo? Secondo me sì, e spero di sì. Credo che più che un mondo così, proprio per i miei nipoti e i miei figli, spero che succeda qualcosa di tremendo. Tanto prima o poi succederà. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, io. Porca puttana. Porca puttana. La però gente in macchina si è fermata. Il fatto che sia tutto finito è testimoniato da quello che ho letto oggi, caro David. È testimoniato dal fatto che Emilio Fede comincia a fare le ospitate in discoteca. Le ospitate in discoteca. A 80 anni. Eh sì, è stato invitato da una discoteca. Senti, da anni i più importanti club lo vorrebbero come special guest, ma lui non ha mai prestato la sua immagine. Per darvi in Paradise, l'evoluzione del divertimento farà anche questo. Direttamente dal privé del Twig e del Billionaire, dalle piscine dorate del Lion in The Sun e Malindi, dalle feste esclusive di Arcore, l'uomo che ha fatto la storia del giornalismo, il direttore dei direttori, darvi in Paradise, ospita Emilio Fede. It was the greatest funeral, laid in perfect state. Fabrizio da Roma, dai, iniziamo, vai Fabrizio, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Ciao, senti, volevo fare un... Aspetta, su pronto? Parenzo. Pronto? Sì, chi è? Pronto? Sì, dimmi. Aspetta. Vai Fabrizio, vai. Penso. Cioè, dato che lui schifa tanto diciamo tutti gli ascoltatori della Zanzara, è da donato no, a giù la maggior parte, dato no, che i tranche gli fanno schifo, la maggior parte, secondo te, sì. Perché voglio dire, sì, e sì, dato sì, che sì, tu diciamo, queste persone le schifi, dato che tu sei una persona talmente e culturalmente elevata, sì, e hai bravo. Queste belle frasi che ogni tanto sì. Spari, e invece c'è un libricino sì. che leggi, io sì. Voglio dire, ma perché non dai le dimissioni? Sì. Scusa, no, anche questo è giusto. Lascia la Zanzara, ma che perché c'entra? Tu a fine mese ci sono linee, i soldi te li metti in tasca e questi soldi te li metti in tasca grazie perché, a il successo sì. Che ha questa trasmissione sì, certo. Delle persone dell'Italia se normale, della vita quotidiana. Se io dai lasciassi questo avamposto di libertà, perché questo è indiscutibilmente un avamposto di libertà, ma lascialo, no? Ti fa tanto no, vomitare questa gente, alcune persone carichi il bagno ogni discuto. Tanto, capito? Cioè, parli tanto di cultura, certo. discuto, discuto allora, con la gente. Ma discuto, chi te lo fa fare? Discuto. No, a fine mese i soldini ti arrivano ma del cosa c'entra? Corrente, no? Ma che cosa c'entra? Ma non c'entra niente, Fabrizio. Ma no, ma uno può, a lui fa schifo parlare con certe persone. Sì, però sono qui, mi diverto, discuto. A me mi sembra che quando parli con Parenzo gli fa schifo tutto. O intanto ti dà quella bella frase, quella bella frase di culturale che non c'entra niente. Sì. Qui è fatta, questa è la trasmissione fatta di gente normale, che vive la normalità. Normale, sì. Cosa no, no, Parenzo, ascolta, sì, attento, è attento, la, attento, è la normalità. La gente normale, la gente normale, non è quella che vorrebbe bruciare i rom. La gente normale non è quella, no, a casa mia. Ma tu sei uno di quelli che ti riempi la bocca perché non le vive certe situazioni. Prova a vivere vive, vicino a un campo rom. Bravo, certo, non le vive, le conosco benissimo, ci sono stati mille volte. Ho vissuto a Milano in Viale Monza 43 per 10 anni. Viale Monza era Milano, sai dov'è? La Magliana, perché non vai a abitare adesso la Magliana? Che c'entra, perché uno dovrebbe abitare la Magliana? Che gli danno fuochi, la gente poi è arrabbiata con i rom. Va bene Fabrizio, abbiamo capito. Alberto da Brescia, non se ne va Parenzo. Alberto da Brescia, vai. Arrivederci. Pronto? Sì, dimmi Alberto, dimmi. Sì, ciao, buona serata. Vai. Io chiamavo riguardo al fatto di testimoniare o comunque avvisare le forze dell'ordine, sì, se succede qualche cosa. Allora? A me qualche anno fa è successa una cosa del genere, mi sono fermato, sì, ho chiamato ambulanza e carabinieri. Allora? Sono arrivati, da testimone sono diventato inquisito. Ma perché sei diventato l'auto inquisito? Non è che uno diventa inquisito così per caso, no, ero l'unico che hai chiamato, la persona che ho capito, hai chiamato e poi hanno indagato sul perché hai chiamato, eccetera, eccetera. La polizia, però, fa le sue indagini, non è che... Se posso parlare, una persona investita, io ho chiamato che c'è una persona investita in mezzo alla strada. Allora? Erano le 4 di notte, sì, ho visto questa persona e l'ho chiamato, la mia macchina non aveva un segno, non aveva nulla, non c'era frenata, non c'era niente, è stata investita da un'altra auto. Io sono sopraggiunto, Alberto, adesso io non conosco il caso. Io, no, aspetta, posso finire? Ma qual è il punto? Non ho capito. L'auto per 6 mesi mi è stata fatta, la persona poi purtroppo è morta. La carreggiata della mia auto non corrispondeva con il danno. Però Alberto, adesso io non conosco questo caso. Cosa vuoi dire? Spiegami, che cosa vuoi. Perché io ho chiamato i soccorsi. Mi è stata sequestrata un'auto nuova per 6 mesi. Ma io non so come è andata a finire la storia. Ma racconto su tutti gli atti. Ma non posso occuparmi degli atti del tuo processo, no, della tua vicenda. Cioè, tu stai dicendo semplicemente, no, che qualche volta testimoniare porta dei guai. Può darsi che sia. Ma portato via l'auto per 6 mesi, ogni 15 giorni devo andare in caserma dei carabinieri con l'avvocato. Sicuramente qualche esagerazione c'è, oppure hanno pensato che tu potessi in qualche modo sapere delle cose che non dici, oppure che potessi avere contribuito a quell'incidente. Non lo so, io credo che. Ma non è un grazie, è una nuova idea che ho una settimana. Va bene, ho capito. Cercheremo di approfondire il caso. Marcello da Rimini, vai. Marcello, vai. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi, Gabi. Dimmi, vai, veloce, vai. No, niente, io ti volevo parlare del femminicidio, perché prima cosa la ritengo una cazzata come lo ritieni tu. Sì. Poi nel caso della cartomante dovrebbe essere quasi un attenuante, non un aggravante il femminicidio. Non esageriamo, non bisogna ammazzare nessuno, nemmeno la cartomante fascista. No, vabbè, dai. Questa è una battuta. Allora Marcello, vai, forza. No, ti volevo dire che nella Costituzione anglosassone... C'è il crimine di provocazione da parte della vittima. Io ho seguito un caso recentemente. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Che la donna può anche provocare? Guarda, io ti posso dire che per esperienza personale... Sì, però non puoi mettere viva voce all'improvviso o l'auricolare, amico mio. Marcello, pronto? Ma vai a fare in culo, va, ciao. Credo che più che un mondo così, proprio per i miei nipoti e i miei figli, spero che succeda qualcosa di tremendo. Tanto prima o poi succederà. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Cordialissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it. Vi presenta La Zanzara. Time. Luciani, sto per fare la doccia. La pipì la faccio nel water o la faccio nella doccia? Tutta la vita nella doccia, è normale, è normale. Allora, a Trieste, caro Parenzo, nel Movimento 5 Stelle c'è un signore, sì, Fabio Terkovic, che viene attaccato oggi molto in rete, se la prendono con lui. Il sindaco, il candidato sindaco dei 5 Stelle in quella città, cioè a Muggia, Trieste in pratica, perché questo signor Terkovic ha espresso delle idee che secondo me non sono nemmeno troppo lontane da quello che sostengono i signori dei 5 Stelle. Dice esattamente questo: nel caso dei clandestini, più tolleriamo che entrino nel nostro paese orde di semplici migranti economici africani che si spacciano per profughi di guerra senza un permesso preventivo, anzi mantenendoli, e più ne arriveranno in futuro, fino a raggiungere numeri incontrollabili e destabilizzanti per la nostra società. Cioè, guarda che non dice cose assurde, magari dice più chiaramente quello che Grillo in sostanza ha sempre detto e quello che ogni tanto veniva pubblicato sul suo sito. Ma qual è il problema? Non ho capito. Dice che i migranti economici non vanno presi qui, punto, ragazzi, e basta. Ma su questo tema qua i 5 Stelle dicono un giorno una cosa, un giorno l'altra, un giorno sono contro i migranti. Poi dice i naufragi sono colpa dei clandestini a bordo, perdono ogni diritto di accoglienza. No, è bello. Cos'è che questo? Perdono ogni diritto di accoglienza. I naufragi con l'aborto? Sospendere ogni forma di aiuto umanitario a quei paesi dai quali arriva questa marea di persone. Ah, L'Italia è deve intelligente! Che furbo questo! Così arriveranno ancora di più, cioè sospendere L'Italia anche gli aiuti umanitari. Deve dichiarare lo stato di guerra a difesa dei confini marittimi. Uno statista questo, proprio uno statista. Dai. Allora, il principio deve essere quello secondo il quale, questo addirittura posso averlo scritto io, il principio deve essere quello secondo cui chi vuole entrare a casa di qualcuno, senti, deve prima chiedere il permesso e solo dopo viene eventualmente accolto. Pronto? Terkovic? No. Sì? Sono Cruciani, ciao. Prego? Sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Te stanno a massacrare, ecco. Te stanno a massacrare. Prego? Ti stanno a massacrare, amico mio. Ma io... No, io... No. Cosa? No, sostanzialmente io ho tanti appoggi, tante richieste di amicizia. Sì, ho capito, questo però il tuo candidato sindaco... Ma lei chi è, scusi? Ma sono, per queste domande che mi sta facendo, cosa sono? Sono Cruciani, Radio 24, ciao, Parenzo, buonasera. È un giornalista, Parenzo. Allora? Beh sì, più o meno un conduttore radiofonico. Sì, ecco, meglio, un conduttore radiofonico. Ma allora faccia una cosa, magari mi mandi una mail. No, che mail? Sì, qui, la radio, no, ma che mail? Che mail? Scusi, che mail? La rete. Pronto? Non capisco niente, no. Perché c'è gente che le sta aspetta, parlando. Aspetta, no, Terkovic, scusi un attimo. Allora, io sono dalla sua parte. Sono dalla sua parte. In questa vicenda qui sono dalla sua parte. Perché lei in sostanza dice quello che Grillo ha sempre detto. Amico mio. Sì. O sbaglio? Se l'ho detto è perché ritengo così. E assolutamente sono sereno dal punto di vista che non ho rilasciato alcuna dichiarazione razzista, insomma. Lei dice che i migranti economici non vanno accolti. Io sono per la legalità, sostanzialmente. Per la legalità. Che vuol dire? Se uno entra a casa sua, vuole entrare a casa sua, prima deve chiedere il permesso. Sì. Come fanno in America? In America mettono a disposizione migliaia di posti della green card, fanno un concorso internazionale, la gente partecipa e chi vince viene accolto. E io so se gente è a posto, no? E cosa sa fare questa gente, perché così arriva gente che non si sa chi è, magari può essere la feccia, che ne so. In molti casi, in diversi casi io è la feccia. Non so chi sono. Allora io dico, abbiamo delle organizzazioni internazionali come l'ONU, no? Sì, sì, giusto? Sì. Però no, lei che dice anche un'altra... degli uffici, che facciano degli uffici in questi campi profughi, in queste realtà dove ci sono problemi economici, che raccolgano delle richieste, che li inoltrino. No, però la cosa interessante... No? Allora... mi lasci finire. No, ma ho capito, Tecnici, ho capito benissimo. Che destinino queste persone in tutti i vari paesi dell'ONU. Sì, però lasciamo perdere... No, certo, però scusi, Terco, lei dice un'altra cosa, che l'Italia deve dichiarare lo stato di guerra, questo è interessante, a difesa dei confini marittimi, giusto? Beh, scusi, lei, da chi vengono questi barconi? Da che stati? Evidentemente sono in qualche modo responsabili l'Egitto E dunque bisogna bloccare questi barconi o no? Che bisogna fare con questi barconi, amico mio? Bisogna soccorrerli, certamente, però dice... nel momento in cui questi qua hanno imparato a farsi rovesciare quei barconi per farsi accogliere, io ti raccolgo, io ti soccorro, però con questo modo di fare automaticamente, secondo me, perdi ogni diritto all'accoglienza. Dunque, rimpatrio al più presto. Se vuoi essere accolto, devi fare richiesta prima in modo regolare, perché le cose non possono funzionare. Come funziona farsi rovesciare? Cioè, se li rovesciano apposta i barconi? Com'è che fanno? Ma da quello che si capisce sembra di sì, perché scusi, se su un barcone per 20 persone salgono in 500, è inevitabile. Lo fanno apposta per me. Lo fanno apposta perché hanno imparato. Beh, c'è gente che muore. Fanno apposta ad annegare. Quando vedono una nave nelle vicinanze, muore della gente. Terkovic. Muore della gente in mare, poi. Ma muore della gente, ma l'ho capito. Ma bisogna soccorrerli se gli arriva. Però il problema è lei dice di no. Se lo fai apposta per farti soccorrere, dopo che ti ho soccorso, ti riporto indietro. Perdi ogni diritto a far domanda di accoglienza, perché non si fa così. Allora, devi trovare un altro modo. Allora, scusami. No, però tu dici una cosa, scusa, ti chiamo per nome, così siamo coetanei più o meno. Caro Fabio, tu dici anche che praticamente non esistono solo i clandestini, diciamola tutta. Esistono solo i clandestini. Non ho mai detto questo. Beh, sono quasi tutti clandestini. Io ho detto che noi non sappiamo chi sono i clandestini e chi sono invece le persone che hanno veramente diritto. Comunque, per dire una cosa, non è quello che ci mostrano in televisione, no? Di femmine coi bambini, mi viene il dubbio che questi siano migranti economici, può essere. Che non possiamo accogliere. Ma possiamo anche accogliere, però dobbiamo mettere dei numeri prestabiliti e devono esserci delle regole. Io devo sapere chi accolgo prima. Cosa vuol dire? Se hai delle cose. Però sembra sentir parlare Salvini. Non mi pare difficile, non mi pare razzista. Sembra di sentir parlare Salvini, caro amico mio. Uguale, identico, stesse cose. Ma ascolti, dice Casaleggio che le idee non sono né di destra né di sinistra. Dice Casaleggio. Sono idee buone o cattive. Basta. Dice Casaleggio. E lei cosa dice invece? Questo lo dice Casaleggio. Lei invece che cosa pensa? Io dico la stessa cosa, perché non è che io dico una cosa che è uguale a un'altra cosa che dice Salvini. Io sono Salvini dice delle cose giuste. Io dico quello che penso io. Però dice Casaleggio. Aspetta un attimo. Salvini, dunque, aspettiamo. Però Salvini dice delle cose giuste. Il suo candidato dice che non bisogna votare per lei. Mi mandi una mail. Perché così, con tutta quella confusione di È Parenzo che si introduce sempre. Terkovic, scusi un attimo, però il candidato sindaco dice che non bisogna votare per lei. E niente, vabbè. E andiamo con Giulio da Grosseto. Giulio, Luciani, io ti ascolto. Non sento niente. Umberto da Milano, vai, cerca di parlare meglio, Giulio, di andare in una zona dove c'è campo, altrimenti non ce l'ho per i coglioni. Umberto, vai. Salve Luciani, mi sente? Dimmi. Allora, volevo solo dire in merito a Benigni che, al contrario di quello che lei ha detto all'inizio della trasmissione, non può votare sì al referendum per un semplice motivo. Perché? Anzi, per un paio di motivi. Primo, perché in tempi di governo del centrodestra Benigni giustamente erano di quelli che difendeva la Costituzione, elogiava quello che fecero i padri costituenti, la Costituzione definì lui stesso, come tutti, bene o male, quelli di sinistra, la migliore del mondo. Fece trasmissioni alla RAI spiegandola anche molto bene, devo dire, mi piaceva molto ascoltarlo. Adesso dice che si può modificare, è una contraddizione terrificante, una coltellata alla schiena. Non credo che Benigni abbia detto che la Costituzione è immodificabile. Non c'è dubbio però che una volta che la Costituzione la modifica un governo di centrosinistra, alcuni che prima gridavano allo scandalo quando solo veniva toccata qualcosa da Berlusconi o cominciavano a provare a cambiarla, adesso invece hanno un atteggiamento più morbido, non c'è dubbio. Un piccolo particolare. Però a me non me ne frega niente, se uno è convinto di votare sì. Ma per carità, ognuno può fare quello che vuole, ma ci mancherebbe. Ok, grazie. Marco da Foggia, vai Marco. Ciao ragazzi, buonasera. Vai, dimmi. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzio. Veloce. Ciao, caro. Vai. Troppo seriosi stasera comunque. Ciao, dov'è? Troppo seriosi, troppo seriosi, dai. Quando disse all'amico che noi ci vogliamo sbellicare quando sentiamo la zanzara. So, scusa Marco, dov'è la seriosità di stasera? No, per curiosità, ma dov'è la seriosità? Argomenti troppo seri, dai. Argomenti troppo seri. Argomenti troppo seri. Vabbè. Vai, Marco. Domanda a bruciapelo, sì o no? Sì. A chi la domanda? A chi fai la domanda? Domanda a bruciapelo. A domanda a me, cioè, tu chiami, ci dici stasera, stasera ancora non rido e poi mi dici domanda a bruciapelo. Ma chi cazzo sei, conduttore della trasmissione? Ma è roba da matti, dai. Domanda a Cruciani. Sì, dimmi. Sì. Allora, sì. La Boldrini. Sì. Dico un pensierino, ce l'hai fatto, no? Ma vai a fare in culo. Luca da Pisa, dai. Luca. Sì, buonasera. Dimmi. Io volevo dire semplicemente una cosa a Parenzo, dato che... Eccoci pronti, vai! Vai. Ah, Parenzo! Dimmi. Forza! Tu sei la spalla, no? Forza, tu sei la palla invece, andiamo avanti. No, tu sei la spalla, quello che dice sempre le solite stronzatelle per attirare le simpatie del pubblico. Sì, ma non mi pare le simpatie. Non ti senti ridicolo? Ma a fare cosa? Dire no, quello che penso? Ti voglio chiedere, ti senti ridicolo o no? No, ma lei si sente ridicolo a telefonare per dire una stronzata simile o no? No, perché se l'hai magari ridicolo, anche preparata, questo è il dramma. Il dramma è che lei per dire sta stupidaggine si è anche preparato mezz'ora. Ci sono persone intelligenti che ti ascoltano ogni giorno, arriverà il punto che dovrai stare attento a dove vai quando esci, Che paura, Fermi. Idiota. Cruciani, tu sei uno stronzo, sei fastidioso, sei spocchioso, sei strafottente. Ma io ti amo. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presento La Zanzara. Allora ragazzi, come diciamo prima, candidata a Roma per i signori di Casa Pound, la signora Rita Serafini. Rita Serafini, veggente, sensitiva, cartomante, sostiene delle cose abbastanza incredibili, però vogliamo tastare, vogliamo verificare di perdere, lo so, tu non vorresti, lo so, non vuoi No, figurati, anzi, quando si esplora... Noi facciamo delle colonscopie sostanzialmente. Ma non esagerare adesso, sì. Dai. Ma è una cosa che sei un'astrologa che si candida. In questi anni ho riscoperto l'aspetto bello tuo. Cioè, tu non sei un medico. tu sei, fai delle, mi porti con te in queste colonscopie dell'animo umano. Praticamente, detto in soldoni, tu metti la mano nel sedere degli ascoltatori dentro, sì, e gli porti fuori l'anima. Questo, ecco, allora facciamo la colonscopia a questa signora. Rita Serafini, va, sì, proviamo, sì, proviamo. Sì, pronto? Sì, signora Serafini? Sì. Buonasera, come va? Sì. Sono Cruciani, da Radio 24. Buonasera a lei, mi dica. Come sta, cara signora, come sta? Abbastanza bene, la ringrazio. Senta, siccome lei è un'astrologa, mi sembra, no? Come si, sì, può definire? Oltre che candidata per Casa Pound alla, sì, alle comunali. Ecco, che cosa ha visto nel, per queste elezioni di Roma? Onestamente io non ho fatto le carte per le elezioni, anche perché presumo che non ci saranno grossi cambiamenti. Chi, no, certo, vinca, tanto sono tutti uguali, sì, sono un po', diciamo così. Non so, ecco, usi il termine. No, usi lei il termine, che so, sono dei prostituti della politica. Dei prostituti della politica, gli altri. Ecco, scusi, signora, ma mi interessa molto cosa lei pensa del Papa, cioè la fine del mondo ci sarà o no? Guardi, io quello che penso del Papa è il peggio del peggio. Cioè? Allora, cioè, per me è una persona veramente negativa. È una persona nera dentro. Nera, cioè nera come neri, come... No, non come negri, è nera come Satana. Come addirittura, Satana. Per lei addirittura c'è Satana nel Papa. C'è Satana in questa nuova chiesa, sì. Nostradamus disse che l'Europa sarebbe stata invasa dai neri, sì, e che ci sarebbe stato il Papa nero e poi, sì, la fine di... E lei ci crede, no? Il biondo Tevere che si sarebbe, sì, che sarebbe diventato rosso. Lei ci crede a Nostradamus? Sì, io credo a Nostradamus, ma anche se non l'avesse detto Nostradamus, basta guardare ciò che succede nella realtà. Lei dice la realtà è quella, no? È quella, a prescindere da Nostradamus. Io, sì, avendo dei nipoti, mi auguro che questo, sì, mondo finisca, perché è uno schifo. E pensare che i miei nipoti, sì, nascano e che potranno diventare gli schiavi di questi negri, scusami. No, no, dei negri, sì. Va bene, di queste persone che entrano, non esiste una persona che è entrata in Italia perché viene da guerre o da fame. Esistono? I siriani, noi non ce l'abbiamo, esistono tutti quelli che buttano fuori dalle patrie galere, sì, e che noi stiamo mantenendo. Cioè sono tutti criminali, questo, sono tutti criminali. Si salveranno pochissime persone. Sono, e quando può finire questo mondo? Nostradamus, che aveva previsto, cioè come data più o meno? Aveva previsto col Papa Nero che sarebbe finito il mondo. E sto Papa può essere... Per me il Papa Nero è questo, sì, cioè non perché l'ha dunque detto siamo vicini. Io mi auguro di sì, perché allora... Io scusi, ma poi crepiamo tutti, signora, se finisce il mondo. No, non credo. Io penso che ci sarà da lassù qualcuno che salverà i migliori. Intanto, cioè? Io consideri che ho una associazione degli animali. Una? No, non faccia lo spiritoso. Chi ha parlato di ariani? No, ho capito male. No, ma non ho capito che cosa c'è gli animali? No, io ho un'associazione, sono animalista. Sì, se lei legge tutti i giorni, sì pure, quello che, cioè, cosa fanno agli animali, sì, mi auguro che, credo che l'essere umano non ha il diritto di vivere. Sì. Non dico che gli animali hanno più diritto degli uomini, hanno diritto di vivere come gli esseri umani. E noi, adesso, noi come li stiamo trattando questi animali? Malissimo, li stiamo distruggendo, li stiamo massacrando. Adesso ci si è messo pure la Caritas, sì, e il Papa a dire che bisogna dare da mangiare ai vicini e non agli animali. Sì. Un Papa che dice non date da mangiare agli animali, ma pensate ai vicini. Ma chi sono i nostri, scusa, vicini? Se questo Papa venisse ammazzato, per lei sarebbe una gioia? No, una gioia no, mi dispiace come essere umano, però sì, non mi dispiacerebbe. Ho letto che lei sostiene di essere nazista. Mi ascolti? Sì, allora, mi, io sono in Italia, sì, sono a casa mia, sì, però se mi entra qualcuno a casa e, sì, e mi difendo, vado in carcere. Sì. Se cammino per la strada rischio di essere violentata, aggredita, massacrata. E non c'è assolutamente sicurezza né certezza della che pena. Che c'entra con nazismo questo? Ma adesso glielo spiego. Se a un certo punto essere italiani, perché questo è il punto, sì, che si dà del fascismo, della fascista, perché... Beh, lei è fascista, signora mia, l'ha detto, io sono fascista. Signora, certo che sono fascista, perché oggi, con questo governo di oggi, sì, essere fascista significa essere, anzi, essere italiano significa essere fascista. Beh, insomma, allora, sulla... sì, perché questo voglio dire. Ma comunque, diciamo... lei ha delle, anche delle cose di Mussolini, ha delle certamente, delle foto, ma io delle, non rinnego assolutamente. Allora, lo dica, sono fascista e me ne vanto. Sono nazista. Hitler ha fatto delle cose buone, secondo lei? Sicuramente no. No, in generale qualcosa di buono l'avrà fatto, no? O no? L'avrà fatto perché era della sua idea, certamente l'ha fatto, poi, se, poi il resto no. Cioè, no, io non uccido, non sono per lo sterminio. E Mussolini qualcosa di buono l'ha fatto? Era un grande statista, signor Mussolini? Certamente sì. Peccato che sia alleato a Hitler, era cioè, e non esiste oggi una persona che abbia il valore di Mussolini. Cioè, era il più è stato il più grande statista italiano, diciamola tutta. Sì, forse l'ha un po' craxi. Beh, chiedo scusa. Dimmi, Davide, chiedo dimmi. Scusa, chiedo può scusa. Dire al signore che sta parlandole sotto che può chiamare, può parlare direttamente con me. Sì, no, infatti vuole signore, parlare, vuole parlare. Il signore parlare. Che sbuffa sotto che ha ascoltato finora tutte, lei fa la cartomante, sento no? Le parole, non so sì. Con chi parlo, con il signor Parenzo, si chiama il signor Parenzo. Con David la Parenzo. Signora è candidata per gli amici di Casa Pound. Sì, ho sentito tutto in silenzio, diciamo. Lei fa la cartomante, no? Sì, faccio anche la cartomante. Riesce a prevedere che tra 40 secondi qualcuno la manderà a fare in culo oppure no? Ma penso di sentito, no, perché per il frattempo la mando io a fanculo prima che lo fa. Non lei. Lo riesce a prevedere. Ma perché? Che ha detto? Ma che ha detto? Sbagliata. Ha fatto una previsione sbagliata. Ma scusa, che cosa? Perché ma, per ma tutto sei un cafone, quello sei. Che ho sentito, per tutto quello che ho, il minimo che possa accadere è che uno si prenda un fare in culo. Ma il perché? Minimo, perché? Il minimo dica sindacale. Al signore che si il siamo minimo, in un paese democratico. Esatto. Purtroppo, e sicuramente sto parlando con una zecca comunista. Gente come lei, purtroppo, ha il diritto di parola. Ma di perché? Candidarsi. Ma sei impazzito? Pure, che si proclama Dio fascista. Di sei veramente un cafone. Gente che sei. Si proclama fascista. Ancora oggi del 2016 e beh, allora, che e allora perché non sono uno schiavo del governo, non mangio con i soldi delle diverse ma uso ma quali, ha capito, ma lei seguiti a stare con Renzi che è quello che ma si merita. Ma quale Renzi, io critico quello che lei dice, lei si è dichiarata dell'ordine fascista, sì? Mussolini grande ma sì un cazzo. Lo prevede questo o no? No, no, lei, che prevedo che lei è un grandissimo ignorante, brava, maleducato, no, brava, sicuramente brava, sì. Brava, che, non ha il che lei non ha il diritto di brava. Assolutamente di potermi offendere, brava, perché non mi brava, conosce brava. E non sa chi oh, sono. Quindi lei è un grandissimo cafone. Io valuto, lei deve rispettare ciò che io dico. Brava, che lei, come brava, io rispetto no, lei, brava, brava, capito, fascista, nonostante i fascisti sia da zecca comunista. Scusi, signora Cartomante. Ma dica a questo signore di stare zitto, che fa più bella figura. Perché non esiste che lui attacca una persona che non conosce offendendomi. In base allora a quel che dice. Lei deve mandare a fanculo la sua perfetto. Famiglia, non a me che non mi conosce, non se lo può permettere. Ha capito? Capito? Non so con ciò che fare, ma comunque sicuramente Parenzo, spero che non lo vedrò mai. Parenzo conduce anche in televisione sulla 7. Fa il giornalista, Parenzo. Conosce la 7, il programma fuori onda sulla 7? No, non conosco la 7, non vedo la televisione, meglio, non vedo la TV. No, non vedo meglio. La TV, la vedo meglio. Soltanto di notte e vedo i film in bianco e nero, perché la TV di oggi è spazzatura come chi la presenta. Come chi la presenta, dunque anche come chi la presenta, certamente, anche lui, perché è una persona che aggredisce così una no, donna no, non ho aggredito niente, e la mandato... prende a parolaccio posso no, no, essere ho mandato io aggredisco le idee, non le persone. Lei no, ha detto lei delle cose per me agghiaccianti per lei sono lei agghiaccianti de... per certo. Me no. Ma scusi, lei signora, può permettere di dichiararsi aggredirmi signora, fascisti ma mi dichiaro nazista, guardi un po'. Peggio mi sento. Signora, scusi, peggio lei è a favore della pena di morte? Certamente sì. Peccato che non c'è più i giornalisti che presentano le trasmissioni. Pena di morte, sì. Grasse risate con la cartomante si fa. Grasse sì, risate certo, fa con, molto la con la cartomante candidata. Ma andate a fanculo, dottore. No, ma sul serio? Con la cartomante sul serio, lei è a favore della pena di morte? Sì, no, adesso, per alcuni, per alcuni, per alcuni reati, per alcuni reati sì, per sì, esempio sì. Per chi si vizia i bambini sì, sì. Cioè, sul Papa comunque. Ha detto delle cose vergognose. Ma che cosa no, vergognoso sarà lei. Lei è una vergogna nazionale. È una io vergogna sono... nazionale. Altro signore, che. Guardi, si prenda una bella camomilla che forse le conviene e rispetti il prossimo. Comunque, va bene. Io vado a fare le carte. Grazie, vado signora. A fare le carte. Prego. Carta vince, carta perde. Carta vince, carta perde. Vada da Renzi, mi raccomando. Carta si pulisca bene la lingua. Sì, carta vince, carta perde. Carta vince, carta perde. Ora qualcuno la manderà a fare in culo. Carta vince, carta perde. Carta vince, carta perde. La cartomante di Casa Pound, ragazzi. La cartomante è finita malissimo ogni volta. Parenzo, tu sei un disastro ogni volta. Non aveva previsto tutto la signora. Aveva previsto quasi tutto, ma non tutto. Non aveva previsto tutto, purtroppo. Le carte non lo dicevano che oggi qualcuno forse l'avrebbe mandata in quel posto. Mario da Roma, vai Mario! Mario, a te, vai! Buonasera a tutti! Vai, ciao. Dimmi! Volevo raccontarvi, innanzitutto volevo dirvi che sono molto vicino a voi per la vostra lotta per la legalizzazione della prostituzione. Beh, adesso non esageriamo, non è che diciamo, siamo molto vicini a voi, Battendo, assolutamente, da tanti anni! Per la legalizzazione anni. Della prostituzione. Assolutamente! È una nobile causa, io ti sono vicinissimo. Molto bene. E a testimonianza di tutto ciò ti volevo raccontare la prima volta che sono andato con una prostituta. Ecco. Esattamente 10 anni fa sono andato ad Amsterdam come fanno tutti. Sì, vai ad Amsterdam, che fai? Non vai a prostitute. È chiaro, vedere i musei, vai a vedere Van Gogh. Sono andato da Van Gogh, ma poi tutte e due no. Sono andato da Van Gogh, ma poi la sera sono andato anche alle vetrine, sono andato con una prostituta. Ma scusa, Parenzo, io ti racconto una cosa. Qualche anno fa, 8 anni fa, a Vienna, giugno 2008, Vienna, io sono andato una volta con un mio amico che mi ha accompagnato a una straordinaria mostra di arte contemporanea, di cui non conoscevo nulla. E devo dire che la sera siamo andati a Mignotte, al Globen, non mi ricordo dove era, Golden Globe, a Vienna, arte contemporanea, e Mignotte subito dopo. Una cosa normale, sera, tranquillamente. Cioè, normale. Con le tende, era un posto meraviglioso, con le piscine fuori, un posto fantastico a Vienna. Cioè. Mario, vai. Sì. E quindi praticamente sono andato da Van Gogh al museo, lì e la sera ovviamente siamo andati, che fai, stai ad Amsterdam, non vai alle ovviamente. Vetrine, siamo andati con gli amici alle vetrine, certo. Ci siamo divisi perché il bello è andare solitari e ognuno prendersi il tempo e scegliere la propria merce, vetrina preferita, la e praticamente sono arrivato lì, mi sono innamorato di questa signora, di questa signora che stava lì. Ma innamorato che vuol dire? Sì. Era bellissima, era veramente una fatta stupenda, dolcissima. Mi avvicino e vedo che mi presento e lei era un'italiana e subito ha riconosciuto il fatto che io ero un'italiana. Vabbè. Mi fa entrare, insomma, consumiamo, diventiamo amici. Praticamente io mi sono amici così preso da lei che praticamente nei successivi 4 giorni sono andato 4 volte consecutive sempre da lei, nonostante le critiche dei miei amici, perché dicevano ma scusa, stai lì, cambia no? Scegli in un'altra, no? Invece sei andato 4 giorni consecutivi da questa qua, dunque? Sì, sono stato lì e praticamente lei mi ha detto che era una ballerina di lap dance a Barcellona, ha avuto un periodo difficile con la cocaina e si è trovata in cattive condizioni. Per me va tutto bene, dove vuoi arrivare con questa cosa, oltre a raccontarci la tua storia, questa tipa di Bologna praticamente era da 10 anni ad Amsterdam, pagava le tasse, si era ripresa economicamente, riinserita socialmente, si era comprato un appartamento a Bologna e ora la sua vita andava perfettamente bene e le tasse le ha pagate all'Olanda anziché pagarle all'Italia. Stupendo, ciao Mario, ciao. Bene, ciao caro. Ciao. Lorenzo Palermo, vai. Pronto? Vai, dimmi Lorenzo, vai. Signori, io vi chiamo la telefonata che lei ha fatto a quel demente con il cognome da ufficiale nazista. Terkovic, sì. Sì. Perché questo secondo me aveva perfettamente ragione. Non c'è una parola fuori posto, tranne la cosa dei barconi che si rovesciano apposta. Però assolutamente. Basterebbe quello. Assolutamente. La prossima volta in Libia prepariamo un sistema di giacca e cravatta con camicia bianca. Così li trasferiamo eleganti, gli diamo la green card a tutti, così li accogliamo. Così. Questo signore ha detto una cosa molto chiara. In Italia, in altri paesi, si arriva solamente se ti dicono sì, prego, vieni. Cioè, ti accogliamo... Crociani. Camillo Crociani era un altro dello scandalo Lockheed. Che adesso non stiamo ha ragione lei. Sarete parenti. È povera gente questa qui, ma dipende, che vuol dire povera gente? Va bene, sarà anche povera gente, ma noi non è che siamo tenuti ad accogliere tutta la povera gente del mondo, perché altrimenti siamo morti, amico mio. Ma infatti non rimangono qua. Scusi, scusi, mi faccia parlare. Però nessuno si può permettere di sfruttare questa gente, ridurla in miseria, e poi questa gente è costretta a scappare perché vendiamo le armi, facciamo scoppiare le guerre. Ma lasciamo perdere, quello è un altro discorso. Ma non è lo stesso discorso. Questo signore candidato a Trieste, adesso gli rompono le scatole perché è grillino, Grillo la pensa esattamente allo stesso modo. Mi scusi, lei deve andare nella sostanza del problema. A me non me ne frega niente se è dei 5 Stelle. Ha detto una cosa molto chiara. Ha detto semplicemente che si entra solamente quando a casa tua, tu chi accogli? Capirai. Chi accoglie a casa tua? Chi accoglie? Non è che fai entrare la gente a cazzo di cane, no? A casa tua. Se uno viene a casa tua e bussa, dici chi è? Ma che razza di argomento? No, non è un argomento, è questo. Ma che razza di argomento? Un paese è una casa. Vabbè, non è un argomento, va bene. L'unico argomento è il tuo. L'unico argomento ma è il tuo. Ma non dico che sia il mio, ma che razza di argomento è? È l'unico argomento, è l'argomento di principio fondamentale. Fondamentale. Se non si parte da questo, destra, sinistra, Grillo, non me ne frega niente. Non è la casa tua. No, non è la casa. Se tu pensi che tutti possano venire, ma facciamo entrare tutti, ma chi se ne frega? Vabbè, ciao. Maurizio Bianconi con noi, buonasera, onorevole Bianconi, come andiamo? Bene, benissimo, voi come state? Bene? Beh, combattiamo. Ci difendiamo. Combattiamo abbastanza bene, bisogna dire. Allora, un suo conterraneo, il signor Benigni, io non so questo argomento quanto sia appassionante per le moltitudini, però certamente ha nel mondo della politica, dei giornali, dei media, della comunicazione, ha destato un certo scalpore. Prima era sempre un po' restio a modificare la Costituzione, il signor Benigni, anzi, quando probabilmente c'era il centrodestra al governo, diceva, beh, no, la Costituzione, eccetera, eccetera. Adesso invece si è schierato apertamente per il sì, anche se, come ha detto Ferrara ieri, un po' ipocritamente, un po' tartufescamente, ha detto col cuore voterei no, e invece adesso sono invece con la testa per il sì, che non significa una mazza, perché è una cosa un po' paracula questa roba qui, perché, come dire, io voglio tenere da una parte buoni i miei spettatori, i miei clientes che sono per il no, invece poi con la testa dico sì. Tu che pensi di Benigni, Maurizio? Ma tutto il male possibile. Dunque, lui ha fatto come... Ve lo ricordate, non siete giovani, ma c'era il Candido che c'era Contrordine Compagni, no? Sì, come no? Solo metà leggete una cosa e poi invece... E così lui, Contrordine Compagni, c'era scritto Compagni, blocchiamo la Costituzione, Contrordine. Bisogna dire Compagni, sblocchiamo la Costituzione. Aspetta, quindi, Maurizio, che ti sento male, che sei? Col viva voce, con l'auricolare, che sei? Con l'auricolare. Ecco, amico mio, l'auricolare no. Così meglio? Ottimo, meglio. Perfetto, vai. Allora, dicevano compagni, Contrordine Compagni, blocchiamo la Costituzione, non è blocchiamo ma sblocchiamo. Lui ha seguito semplicemente le istruzioni della Casa Madre. Cioè, qual è la Casa Madre? Non credo. La Casa proprio. Madre è il PD e il vecchio PC, lui è un uomo che viene da lì, ha vissuto da lì, ha preso tutti i suoi soldi con l'Unità, ha fatto con firme di Berlinguer. Io sono toscano e lo so, come diceva. Ma che dici, ma come lo definisci? Siamo toscani. Ma è un artista, che ha vissuto del suo talento. È un artista che ha vissuto del suo talento. Un artista, un attore, un regista di grande successo. Ma non è un artista, artista è Michelangelo, non lui. Vabbè, ma anche un artista che ha vissuto del suo successo, ma si fa a dire che è stato... Perché funziona così. Lui si è fatto tutti i festival dell'Unità, ha raccontato al mondo, ma che c'entra? Che in Toscana si nasce e si beve latte il comunismo, e lui è un buon comunista, segue la Casa Madre. Vabbè, la Casa Madre gli ha detto che bisogna votare così e vota così. Dopo la visiva come vuole lui. Scusami un attimo, ma tu come lo definisci tu? Come lo definisci? Un ruffiano, come lo definisci? Caculo, piano, buffone, scegliete voi. Ma però, non scusa, è una, perché non è bisogna novità, dire queste insomma sciocchezze su un premio Oscar, primo, secondo? Anche se fosse un Nobel. Ma guarda, premio Nobel, cioè, non è che ma non ho capito le persone. L'artista c'è Dario Fo che premio Nobel e questo è premio Oscar. cioè non è che coi premi poi i coglioni diventano intelligenti. No, ma io, no, ma ragione, io su questa ragione Bianconi, scusa, su questa ragione Bianconi, il fatto che uno abbia il fatto uno abbia vinto un Nobel oppure un Oscar, non c'entra un cazzo. Ma io infatti ha preso il Nobel, dice tutto giusto, una ha preso un Oscar e un Oscar fa del buon cinema, l'ho visto anch'io quel film e mi è piaciuto moltissimo. Non cioè che lui ha vissuto grazie al PC, è una stupidaggine, è una stupidaggine. Lui non ha vissuto grazie al PC, è diventato famoso grazie al suo talento. Questa è una cazzata emerita, il suo talento è stato veicolato dal Partito Comunista. Ma figurati. Che ha fatto un attore di punta e che lo ha ingaggiato sistematicamente per il Festival dell'Unità. Allora, fermi qui, che c'è la pubblicità, poi ricominciamo. Fermi, non vi muovete, poi parleremo pure di altre cose, non solo di Benigni, che sennò ci facciamo due coglioni così. La zanzara è come una droga. Sai che ti fa male, ma continui a prenderla perché non riesci a farne a meno. La zanzara. Mamma, saluta Cruciani e Parenzo. Che cazzo sono? I conduttori della zanzara, ma quelli che ascolto sempre. Ah, quelli che mi ci vedono per caso. Sì, loro. Allora, siamo con Maurizio Bianconi, avvocato, giornalista, pubblicista pure, Parenzo, giornalista, pubblicista, non ti scordare, Maurizio Bianconi. Ma chiunque ormai è giornalista. Noi no, sai, Parenzo, anche noi no, perché io venivo da destra, avevo scritto per tutto il mondo, ma se non... Comunque non, io a Bianconi voglio bene. Non ho portato per 10 anni fatture da 8 milioni l'anno, da destra pubblicista. Me l'ha dato a 40 anni. No, ma comunque io anche vabbè, Maurizio, io voglio dire, però, a me Bianconi mi sta molto simpatico, litigo ma mi sta simpatico, però non c'entra ha niente adesso. Ha detto una sciocchezza mega galattica su Benigni, però devo dire una cosa su Benigni io, Maurizio, sì, sai quanto sembra... sai quanto mi piace quello che insomma, cioè, tu essere, tu il tuo essere eccentrico, però no, io credo, io credo che diciamo oggi, beh, certamente è nato in quel mondo e si è fatto grande ma in quel mondo. Ma devo dire che abbia talento, dire? Non c'è dubbio. No, ma lascia perdere. I suoi film hanno avuto successo al botteghino. Ma che cazzo c'entra? Tra la bravura dell'artista e la sua natura politica. A me Benigni diverte moltissimo perché esprime il mio mondo. Cioè, mi è praticamente la cultura toscana che è portata al mondo. Sì, mi sì. piace molto meno, per esempio, quando leggi la Divina Commedia, ma qui De Gustibus. Sì, ma sì. secondo me è un grande per quello che ha fatto. Questo non c'entra niente con tutto un altro filone. Che sia un... anche Buttuso era un grande... Però era comunista, certo. Però certo. è fu un partito comunista che lo valorizzò. Che lo portò ma su avanti. Questo può essere anche che tu abbia ragione, però ti chiedo un attimo un'altra cosa. Però ti dico una cosa, scusa. È un uomo del partito e quindi sì, che bisogno ha adesso di leccare il culo a Renzi, Benigni? Che bisogno ha? Perché più soldi hanno e più se ne vorrebbe avere. Più siamo più nella soldi... cresta dell'onda e più ci si vorrebbe cioè restare. Più soldi hanno e più se ne vorrebbero avere. Cioè, sì, ma no, però sì. Maurizio, non gli serve a niente. No, adesso non gli... Mica di Benigni e di tutti. Non c'è attore, non c'è persona importante, non c'è industriale, non c'è artista, non c'è nessuno che anche sulla cresta dell'onda, se è di un certo contesto culturale, che è quello della corte, che non partecipi alla corte fino in fondo. Però questo scusami, non ha bisogno, non ha bisogno di leccare il culo a Renzi. Esatto, che bisogno ha? Non ne ha bisogno. Perché ne ha bisogno? Perché lo manda in televisione, ma se no lo cancella dalla televisione. Ma no. Perché gli fa fare i film, ma come no? Ma no, voi gli fa fare i film? Ma in che mondo vivi? Voi vivete nel mondo d'Alice del Paese ma no, no, no, Benigni va lo stesso in televisione a prescindere da Renzi, dai, a prescindere da Renzi. Ma via, ma ragazzi, ma se avesse detto di no al referendum sarebbe andando in televisione lo stesso, la Rai appunto, l'avrebbe preso lo stesso appunto. Per altre serate, ma chi l'ha detto? Ma vabbè, chi l'ha vabbè, o tu la pensi diversamente certe cose e certe altre. Senti, invece parliamo di un altro argomento. Qui veramente in questo caso non dico che c'è leccaculismo, ma c'è uno sfruttamento dei capitani della nazionale, perché l'altro giorno Renzi ha detto persino Buffon vota per il sì. Abbiamo scoperto che Buffon in un'intervista all'Unità fatta da Chicco Testa, incredibilmente da Chicco Testa da un certo punto di vista, ha detto ha parlato di bicameralismo eccetera eccetera, se lasciamo perdere questi argomenti seriosi, però ha detto sostanzialmente che Renzi è un innovatore e che voterà sì al referendum. Ci ora sta. Sì, d'accordo, ci sta che Buffon dica la sua tu. Però, ma no, capito, può, Donato da Varese può avere un'idea sul referendum e Buffon... Ma no, no, ma lo può dire, però è il capitano della nazionale, stai per fare gli europei. Secondo me ci vuole anche un po' di distanza da queste robe qui. Sei il capitano della nazionale. No, la distanza! Io l'ho presa sul ridere. Perché? Io ho scritto, mi pare, abbiamo capito chi porta in casa, i pantaloni in casa Buffon. Cioè? Lei è notoriamente di sinistra e lui, nonostante che in quell'intervista... cerchi di sembrare non di destra, si vede anima di destra, perché dice, quali sono per te in quell'intervista destra, quali sono per te i valori eccetera. Io non sono di destra, e quali sono i valori? Il patriottismo, il merito. No, ma lui è di destra, lui è sempre stato di destra, era addirittura... ma lui lo nega in quell'intervista. Vabbè. Lo nega. Vabbè, perché lo dici nega. Che gli dicono quali sono i valori, perché dici che abbiamo capito chi porta in casa i pantaloni? Non ho capito. Perché la signora che dice, la signora D'Amico dice che gli ha fatto le risposte sono sue. Le risposte ha detto, poi ha detto, dice, chi ti piace a te nella tua vita, qual è l'eroe della tua vita, e lui gli ha detto Panagulis. Io, siccome lui è uno scommettitore, io ci scommetto quello Alexis che vuoi, Panagulis, che qualcuno, lui chi è Panagulis non lo sa, ma certo che lo sa, ma no adesso Alexis Panagulis, certo. Mi è piaciuto. Vabbè, ma sta da due anni con la D'Amico, evidentemente avrà. Ma perché un calciatore non può sapere chi è Panagulis? Alexis Panagulis, no, voglio dire, il grande amore di Oriana Fallaci, il grande resistente contro i colonnelli. Dai, comunque non lo sa di suo. Ma che c'entra? Io sono nato nel 76 e so chi è Panagulis. Ragazzi, non ci fermiamo su Panagulis. Dai, su. La Panagulis è importante. Beh, stai dicendo che Buffon. Però Bianconi, lasciamo perdere Panagulis. Tu stai dicendo in sostanza che Buffon non ragiona con la sua testa, ma c'è la D'Amico dietro. No, insomma, lì non vedo che non mi pare che siano. Non mi pare che sia. È lei che tira le fila. Vabbè, senti, ma a Roma chi voteresti tu? Ora nessuno, veramente. Alza un po' la voce, non si sente. Ma è un po' infatuato di Marchini, ma da quando si è messo a fare il Berlusconi 2, no. No, non ti piace. No. E le ultime sul Papa, cosa ci dicono le ultime sul Papa? Ha detto che non smetteva di fare il Papa, l'ho scritto. Il problema è quando non comincia a fare il Papa. Perché fino adesso che ha fatto? Il clown? Niente, ha fatto. L'agit prop. L'agit, ma come dice, mia, no, ma come dice qualcuno, un politologo, eccetera, lui istiga gli immigrati a venire in Italia, secondo te? È pericoloso per l'Italia, ma lui fa... No, sta a te. Lui qui fa un altro mestiere, su questo io non sono d'accordo. Lui fa il capo di un'ecclesia, della chiesa, quindi è per lui quelli che sono i problemi dello Stato italiano di non gliene frega niente, non gliene frega giustamente niente. Lui dice vogliamoci tutti bene, venite tutti qui. Questo lo deve fare. In più tu sai che più gente soffre c'è, più gente che soffre c'è, più la chiesa si arricchisce. Sono contenti perché così, assolutamente, state male prima, starete bene dopo, fanno subito. Quindi questo rientra nello schema. Cioè, tu stai dicendo che più gente soffre, e la cosa che per cui veniva accusata Madre Teresa di Calcutta, ha qualche ragione questa cosa. Cioè, più gente che soffre, più c'è gente che soffre, più la Chiesa è contenta. Certo, sì, è, sì, è così, non c'è dubbio, è così. Senti, un'ultima cosa, sei mai andato a puttane? No, sarà 40 anni che non ci vado. Vabbè, sì, negli ultimi 40 anni. Da giovane, sì, certo. Da giovane continuavo, cioè, le case chiuse, non mica sei tanto anziano tu. No. Vedi, ci andavo io quando anche ci andavo perché mandava di pagare, diciamo. In che senso? E se dopo una certa ti guarderebbero e ti direbbero, c'hai questa perché la paghi, se non c'hai altro. E allora ho smesso. E allora hai smesso. Bah. Cioè, l'ultima volta che sei andato, a chi età sei andato? Questa è una motivazione anche nobile. A 30 anni, perché ti andava di pagare, per lo sfizio. Guarda, di... te lo dico, prima di sposarmi. Dicono tutti così. Prima del primo matrimonio. Dicono tutti così. Vabbè, comunque. Quanti matrimoni ha fatto? Da studenti, capito? Oppure c'hai altri giri che io trovo, quelli non l'ho mai. Comunque ci andavi così per così, andavi a puttane così ogni tanto per divertimento. Scambismo, hai mai fatto scambismo? Ma che c'entra scambismo? Che c'è? No, ma scambismo, domanda classica alla Cruciani, no, scambismo? No, scambismo, no, adesso perché devo chiedere a Bianconi se ha mai fatto scambismo? So. Che in genere è la domanda classica. Lo scambismo, lo conosci lo scambismo? Coppia, scambismo. No, io condivido con te. Ma voi siete matti davvero? No, noi sono proprio regolare, sei regolare. No, è cruciale, direbbe che male c'è. Normale. Nasce, ma molto regolare. Molto regolare. E vabbè, ho capito, ma non è che sono dei criminali quelli che fanno questa cosa. No, questa roba qui no. Mai fatte, no, mai fatte stranezze. Sai che in genere... I transessuali non ti piacciono? No, non ci ho mai pensato. Come persone ne ho difesi alcuni e fanno molto... Scusami, altra classica domanda alla Cruciani. Devo dire, però. Cruciani adora essere cornuto. A te piacerebbe tornare a casa e... È normale, Cruciani si dice sempre queste robe. A te piacerebbe tornare a casa e... Ma stasera voi siete scemi. Bianconi, no, su io questo penso, io Bianconi... Penso, che io la penso come me Oscar Wilde, cioè? Il più che era un noto un omosessuale, quindi sì. Le donne le conosceva bene. Che diceva? E questo risponde alla domanda sulla piacevolezza o sullo stato di necessità. Lui diceva, può darsi che esista nel mondo una donna che non ha mai tradito il marito, può darsi. Ma sicuramente non esiste alcuna che l'ha tradito una volta sola. Quindi fate il conto, voi avete moglie, noi sì. abbiamo moglie. In che condizioni siamo? Ecco, ma Cruciani, cioè, Cruciani è contento. Ma esiste il femminicidio? Però, no, esiste il femminicidio? Esiste il femminicidio? Sì, sì, molte volte sì, purtroppo. Vabbè, ho capito, ma è una puttanata il femminicidio, dai, su, è un omicidio come gli altri, dai, su. Cioè, no, fermo. Anche qui, te tante volte, lei anzi, tante volte semplifica. Ci sono casi di femminicidio. Ha ragione. Non tutti quelli che vengono portati alla ribalta. Ma no, ma esistono gli omicidi, punto e basta. Esistono gli omicidi, punto e basta. L'omicidio è l'omicidio dell'uomo che si ritiene superiore alla donna e non avendola più la mano. Ma non è che deve essere sanzionato di più rispetto all'omicidio, dai. Certo. Vabbè, ciao Mori, ciao. Ciao. Marco da Modena, vai Marco. Sì, buonasera. Dimmi. Senta, io sono un po' allibito dalla donna che ha parlato prima di Bianconi. Meno male. Sì. Quella che ha parlato male del Papa, che per me è una truffatrice, cioè uno che fa le carte e imbroglia il prossimo. Purtroppo ci sono i creduloni e vive imbrogliando il prossimo. Vabbè, adesso imbrogliando, uno va volontariamente lì, mica è costretto, va là, si fa leggere le carte, si fa leggere non so che cosa, gli astri, le mani. Secondo me è una professione che dovrebbe essere vietata. Ma cioè... che vietata, dai, su, ragazzi. Va bene, comunque la gente volontariamente può permettersi di giudicare il Papa che sta facendo. Ma ognuno può permettersi di giudicare chiunque. Ma non può una cartomante giudicare il Papa, non può una cartomante, una che ma fa perché una cartomante tre... non può giudicare il Papa? Non ho capito. Tre carte non può giudicare il Papa. Ma... Ricordatevi che noi non siamo in Nord Europa. Se in Italia non ci fosse la Caritas, la Chiesa, come servizio sociale non ma avremmo questo è un altro niente. Discorso dai. No vabbè Marco, ho capito. Milud da Roma, non so chi Milud, che nome è? Cruciani. Che è Milud? Che cos'è Milud? Milud è il nome mio, io sono di Iran. Milud, pure gli iraniani abbiamo. Vai, ma Milud, porta me Cruciani, porta anche me in bordello, dentro bordello. Ma io non vado, ma che porta a bordello? Perché ti devo portare in un bordello? Scusa, ma è vietato? Perché... scusami, no, tu sei islamico? No, a me no, religione non me ne frega un cazzo. Quello mia moglie. Buono, questo è buono, eh. Tua moglie. No, mia moglie che mi rompe coglioni. Quindi porta me dentro bordello. Ma scusami, Milud. Vedi com'è integrato questo? Vedi com'è integrato? È integrato benissimo. Posto è la dimostrazione che sia vero, posto che sia vero. Che l'iraniano Parenzo. È integrato. Scusami, capito? Milud, la tua moglie, se ti sente, che dice tua moglie? Non ho capito. Se tua moglie ti sente parlare qui alla radio, che dice? No, ma lei non sente, lei non segue Zanzara. È meglio, lascia stare, meglio così. Perché lei, quando ogni volta che torno a casa, lei dice, lavoro, ma se io non sento Zanzara dentro negozio, io non faccio nulla, io lavoro male. E poi lei dice, porta soldi. Che negozio c'hai? Che negozio hai, scusami, Milud? Io ho una rosticceria su Tuscolana, Roma. Sì, ma facciamo però finta di credere, facciamo finta di crederti, dai. Ma sarà anche Milud, vai. No, Giuseppe, perché dici così? Sì, facciamo finta di credere, dici Giuseppe. Davide, Parenzo. Sì. Parenzo, tu sei una brava persona, sei molto grazie. Simpatico, però grazie, non capisco, grazie. Tu non devi difendere i Rom, perché questi signori sono venuti una volta a rubare cibo dentro il mio negozio. Sì, no, vabbè, d'accordo. Cibo. Ma ruba cibo, non cibo. Ha rubato soldi. Io stavo chiudendo ruba Cruciani. Cibo buono. Ruba cibo bigandi, buono. Bigandi. Kebab, hanno rubato cibo, ma hanno rubato cibo però bigandi. Dentro il frigorifero. Kebab, shish kebab e cibo arabo. Vabbè, Milud, allora loro venuti. Dammi il numero del tuo negozio. Numero di telefono? Sì, numero di telefono del tuo negozio. Ma io ho paura, Giuseppe. Tu no, ma che paura un cazzo, qui. Dammi il numero del tuo negozio, dai. Ma non può, io do però no qui adesso, che la gente sente. No, no, dammi il numero del tuo negozio. Che male c'è, vengono a ordinare un pollo. I primi numeri, i primi numeri. Ma non rubano pollo, hanno rubato tutto panini, perché io stavo chiudendo. Allora loro vengono, dicono, facciamo panino. Allora ho detto, va bene, io ti faccio panino, però noi non paghiamo. E io dico, ma come non paghiamo? Eh no, dice, perché adesso è tardi, dai è tardi, noi prendiamo panino e andiamo via. Io dico, ma io non posso dare senza pagare. Allora, però loro poi vendono dietro bancone. Prendono panino con il kebab. Io erano quattro ragazzi. Prendono kebab con panino. Prende kebab con panino. Vabbè, Milud. Vanno via. Milud, la recita è finita. Ciao. Ciao, ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, Emilio Fede che comincia a fare le serate in discoteca è una delle più belle notizie uscite fuori negli ultimi mesi, eh. Chiamiamolo. Stasera a Piacenza, adesso lo chiamiamo, aspetta. Si è preoccupato il direttore, eh? Si è preoccupato. Giovanni da Bologna, vai. Ciao Cruciani, ciao Parato. Dimmi, dimmi. Volevo addurre un po' di argomentazioni al tema rapporto uomini-animali, raccontando una mia esperienza, ovvero quando ero bambino, abito a Bologna, ma vengo dalla Sardegna, quando ero bambino mio nonno ogni pomeriggio d'estate veniva a svegliarmi, avevo cinque anni, veniva a svegliarmi e mi portava giù all'allevamento di conigli e maiali che lui possedeva e mi insegnava a uccidere i coniglietti. Cosa succedeva? Io dovevo prendere questo coniglio per le gambe posteriori, che si difendeva, si graffiava, voleva vivere soltanto. Lo capovolgevamo e poi dovevo dargli un bel pugno secco alla nuca cercando di non stordirlo, perché se mi limitavo a stordirlo poi il coniglio mi avrebbe morso, graffiato, ma dovevo ucciderlo con un colpo secco. Ma questo quanti anni fa, scusami? Io ero 28 anni, 5 anni, quindi 23 anni fa. Sì, ma io non credo che si uccidano i conigli in questo modo, eh. Assolutamente sì, si dà un pugno. No, sì, ho capito, ma io non so adesso quelle sono le regole per uccidere i conigli. No, ma per uccidere i conigli ora ci sono delle regole, tutto normato, ma questa roba qua... Diciamo, primi anni 90, allevamento, cioè caserecce, una roba del genere, mio nonno. Comunque, insomma, tu ci vuoi dire che tu da piccolo ammazzavi i conigli con tuo nonno, questa è la realtà. Esatto. Diciamo che era lui quello incaricato a ammazzarli, però io, ecco, ogni tanto mi introduceva a quest'arte, diciamo, quest'arte. L'arte dell'uccisione del coniglio. Devo dire che ci sono un paio di notizie dal mondo animalista che fanno veramente rabbrividire. Una è che ci sono minacce di morte alla mamma del bimbo caduto dentro la gabbia di un gorilla che poi è stato ucciso. No? Ci sono molte persone che sostengono che in realtà questo gorilla voleva proteggerlo e non era il caso di ucciderlo. Follia allo stato puro. Poi ho letto una notizia incredibile di una famiglia russa che ha adottato sostanzialmente un orso come animale domestico. Non so quanto pesi questo orso. Un orso. Questo chi se ne frega. Dai. Un orso, ma è da ricoverarli, dai. Il nostro Francesco amico Calderoli da Milano, vai. Della Lega aveva un lupo nel giardino. Francesco da Milano, sì, ma non a tavola. Dai. Oh, ciao, dimmi, ciao. Dimmi. Senti una cosa, io sono di Roma e mi sono trasferito a Milano. Cioè, in relazione alle elezioni che mo ci stanno per il sindaco, secondo me, da romano che ci ho vissuto 33 anni, no? Non serve un cazzo. Per me questa città andrebbe, cioè Roma, andrebbe commissariata per 10 anni. Sì, ma è quello che sostengono D'Agostino, Ferrara, stesso Fiorello. Aspetta un attimo, niente, il direttore non risponde. Ma ci hanno ragione, ma cioè io, ma anche delle riforme a costo zero, che sarebbero una banalità. Io prima ho preso la metro qua a Milano, che mi hanno chiesto il biglietto quando uscivo, così, a cazzo. Vabbè, adesso io ho preso tanti anni la metropolitana a Milano, non mi è mai successo, per esempio. Per vabbè, cui... ma per a me è successo due ore vabbè, e mezza fa. Tu dici che c'è più ordine, c'è più controllo. Ma fa una mentalità, perché a Roma la mentalità del romano è lo sti cazzi di tutto, cioè non si sente proprio tanto la cosa. Tu dici Roma è immodificabile, dici, non si può cambiare. Assolutamente sì, perché c'è proprio una logica dello sti cazzi. Un po' è così. Proprio verso il 150 metri dopo la porta di casa propria, là io sotto casa ci vedevo i cesti. Un po' così. Il frigo, io, cioè, c'ho la. Vabbè, adesso i cesti, il frigo, non so dove vivevi. Io abito a Roma, c'ho la mazzata di abitanti e insomma, mica posso. Niente, sempre merda. Occupato, Fede, maledetto. Cioè, i materassi. Maledetto, poi. Dai, sblocca sto telefono, no, dai. Porco di un Giuda, ma che cazzo mi frega se intanto vincerà la Raggi? Manca, no, ma io sono d'accordo con te, non cambierà assolutamente nulla, ma questo di solito nelle grandi città... Scusa, non hai detto per chi voti a Milano tu, Cruciani? Sì, è vero, non ho detto per chi voto a Milano, perché mi servo di farlo al... O lo diciamo oggi, oppure... Non lo so, sono abbastanza incerto, perché sono incerto. Di qual è la tua... Allora, detto? Io lo dico... No, no, io lo dico tranquillamente. Io credo che voterò per Parisi. Ma come credo? Credo che voterò per Parisi, non lo so. Cioè, credo che voterò per Parisi. Non voto per Sala, quello dei 5 Stelle non mi convince troppo, comunque non vincerà, dunque sono orientato a votare per Parisi. Potrei anche non votare, diciamo, non votare al primo turno e votare poi al ballottaggio. Non votare. Ma sì, ma non me ne frega niente, magari mi scordo, non ci vado, non che me ne frega niente, la mia, la no, tua non città, me ne frega nulla, no, ti assicuro, perché città. Non cambierà niente a Milano, per fortuna le cose non cambiano. E se fossi a Roma, ancora residente a Roma, se fossi a Roma, allora conosco molto bene Giachetti e credo che potrebbe essere un buon sindaco, probabilmente potrei per Giachetti, ma solamente perché vedi come sono diverso. A Roma potrei per Giachetti, mentre a o Giachetti o Marchini voterei a Roma, diciamo. Sicuramente diverso. O Giachetti, sì, è diverso, sì, certo, è diverso, però molto diverso. L'unica possibilità è che io, per fortuna, non voto a Roma. La realtà è che conosco bene Giachetti e so che sarebbe un ottimo sindaco, questo è sicuro. Poi ho maratoneta come te. Vabbè, quello che cazzo c'entra. Francesco, tu chi voti a Milano? Anche se fosse un ottimo sindaco, che cazzo può fare la pratica? Nulla. Cioè, con un sistema ingolfato. Facciamo un altro tentativo per Fede, un attimo. Per Fedez. Fermo? Per Fedez, no, Fedez, no, Fede. Io posso provare Fedez, forse. Fede, ecco. Niente, sei preoccupato. Ciao Francesco, ciao. Allora, io farei una telefonatina in America a questo punto, per dare un po' di tono alla trasmissione. Sì. C'è? Ce l'abbiamo? Allora, in collegamento dagli Stati Uniti, caro Parenzo, il professor Edward Luttwak. Buonasera. Shalom, buonasera. Shalom, professore. Buonasera e shalom. Scusi, professor Luttwak, le posso chiedere una cosa? Ha letto di questa cosa di Trump e di Salvini? Ho solamente visto sui giornali italiani, ma qui non c'è niente. In questo momento qualsiasi candidato non sarebbe interessato in politici stranieri e Trump ancora di più. Perché Trump dice di non aver mai incontrato Salvini? C'è quella foto, Salvini... Non ho idea, ma se la prova che ha incontrato Salvini è una foto, sì. Allora Trump ha incontrato circa 1 milione di persone, forse 2, forse 3 milioni di persone. Senta, professore, invece ha fatto discutere nei giorni scorsi un'affermazione da parte di un personaggio molto importante del Vaticano in Italia, che si chiama Monsignor Galantino, il quale ha detto che bisogna accogliere sostanzialmente tutti gli immigrati. Nella città del Vaticano. Ah, ecco. Che io sappia, ci sono leggi. Se io arrivo all'aeroporto di Roma senza un passaporto, non mi fanno entrare. Sì. Allora, questo è un vescovo che invita la violazione della legge, perché quello, il vescovo avrebbe potuto dire il seguente. Io suggerisco ai politici italiani di passare una legge che l'Italia diventa il primo paese del mondo dove non c'è nessun controllo legale sull'immigrazione. Sì. Quindi... Non si controllano i passaporti all'entrata e quindi tutti possono venire. Questo lui può dire. Quello che lui non può dire è di ignorare la legge. Cioè, praticamente... La tragedia dell'Italia è che la regola della legge non è rispettata. Non è rispettata dal Papa, che è un extracomunitario, si capisce, ma non è rispettata neanche da questi vescovi italiani. Quando c'è l'anarchia, quando non c'è lo stato di legge, tutti fanno tutto. Scusi, professore, e ma questo lei... vescovo propone la violazione della legge. Sì. Forse propone anche il furto, lo stupro, l'incendio doloso, e violare la legge per l'immigrazione. Senta, professore, no, ma ha ragione lui, cioè, ha ragione lui. Se uno dice bisogna accogliere tutti, significa violare la legge. Senta, professore, ma per parlare di cose insomma più attuali, lei se immagina Roma governata dai 5 Stelle? Cioè, adesso ci sono le elezioni domenica, no? Guarda, non lo so, se i 5 Stelle vincono, vincono. Qualora dovessero vincere i 5 Stelle, gli americani che cosa direbbero di questo? Sarebbero preoccupati? L'America è preoccupata? Guarda, quasi nessuno in Stati Uniti sa dell'esistenza dei 5 Stelle. Come, addirittura? Ottimo. Senta, professore, ma lei ha mai visto Gomorra? Io ho letto il libro e ho visto... Forse ho visto un episodio mentre aspettavo un aeroplano, ma... Questo è un autore molto valido. Questo è un autore che ha guardato fenomeni esistenti, oggettivi e li ha descritti. Sì, come sì. Vivono, cos'è la loro vita giornaliera, che non è sicuramente una vita europea. Cos'è il terzo mondo quello? Terzo mondo, guarda che ci sono parti del terzo mondo che hanno delle società integre e regolate da costumi e tradizioni. Cioè, per cui il terzo mondo in qualche caso meglio di Napoli? Sì, perché non è una società arretrata, è una società degradata. Quando prendo una macchina e guido dall'aeroporto di Napoli, sì, anche per andare semplicemente a un hotel, io vedo le scene, tutte le costruzioni illegali, la sì, palese illegalità di quasi tutto che succede. Cioè, tipo che cosa? Sicurezza totale, il fatto che non puoi parcheggiare la macchina per 3 minuti. Però lei non è che è andato a Scampia, ha visto dalla macchina... Mai. Sì, sono andato. Ah, è andato pure a Scampia. E fra l'altro sono andato perché sì, un amico mi ha persuaso di comprare camicie... da qualcuno che in quella zona che c'ha un ottimo negozio che vende ottime camicie, però per arrivarci sì, tu passi tutte queste scene e le vedi dall'automobile e poi immaginarti cosa vedi. Scampia, seconda cosa, come Gaza praticamente. Eh? Come Gaza. Scampia, come Gaza praticamente. Gaza è una società tradizionale e poi c'è la dittatura di Hamas che impicca la gente e rompe le ossa di chi... Quindi dunque, no, non è come Gaza. C'è più ordine. Gerardo non è qualcosa di povero o qualcosa di esotico, no. È il degrado di una civiltà. Va bene. Pensa un po', se tu sei un imprenditore da quelle parti, sì, che tu hai lo Stato che fa finta di governare ma non governa, quindi non ti protegge, sì, da niente, non fa nessuno dei suoi compiti, però... esige le tasse. Pensa un po' quale tipo di furto statale questo è. Lei sta dicendo, professore, che i napoletani onesti non dovrebbero pagare le tasse, in teoria. Sì, perché è un furto, è un esproprio, non so come dire. Sì, no, ma ho capito perfettamente. Uno Stato che non ti protegge neanche fisicamente. Se tu non puoi gestire una latteria senza pagare i gangsters... Sì. Che il diritto ha lo Stato di chiedere qualsiasi cosa da te. Non c'è dubbio. Grazie professore, arrivederci. Grazie. Grazie. I gangsters. Vai professore, sempre avanti Lutwak. Fermi. Ogni volta che ti sento l'ormone a me va a mille. Buona serata. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Un Una donna riconosce il vero ascoltatore della Zanzara. Dentro veloce, esce pianissimo. Allora ragazzi, nel frattempo, mentre pare che il direttore, l'ex direttore del TG4 Emilio Fede abbia spiegato che in realtà lui va a prendere un premio, poi forse va anche in questa discoteca che ha annunciato in pompa magna il suo arrivo. Vabbè, Fede, Fede in discoteca. Ha cominciato. In fondo il suo urlo era diventato già, no? Un motivetto, sì, è vero, il suo urlo, la Zanzara. E come no, era diventato una canzone veniva rap. Veniva suonato, veniva cantato in tutte le discoteche. Però continuano a rompere i coglioni per telefono, cioè a chiamarlo da mille numeri. E come, ma al come solito fanno a avere il numero, scusa? Non lo so, purtroppo è il numero che c'hanno tutti. E come al solito mandano a noi le telefonate. Che ti devo fare? Cioè mandano a noi le telefonate. Sì, per carità. Noi siamo qui, capisco. Noi siamo qui a ricevere, eh? Sì, sì, figurati, certo, questo capisco. Sentiamo, eh. Hey Dan, ditemi qual è il problema. Uè, direttore, buonasera. No, non è un problema. Ho letto che stasera va in discoteca. Al Darwin. Va in discoteca, è giusto. Ma questa è un'evoluzione della specie. Siamo alle Marchette. Scusa. Mi dica, direttore. Mi dica. Detto fra di noi. Sì, mi dica, direttore. Tu quante volte lo prendi nel culo? E poi soprattutto una cosa voglio sapere. Mi dica. Perché non hai aiutato, hai evitato a tua madre di fare i pompini agli extracomunitari? Spiego. Ma io volevo sapere se stasera c'è la lap dance in discoteca. Sì, c'è quella puttana di tua madre in perizoma. Anche in perizoma? Sì, senta, tua madre. Ma direttore, ma siamo proprio alla canna del gas. No, io ti dico che tu vai a fanculo. Non solo, io ti denuncio per violazione della privacy, sì? Insulti e minacce gravi, sì? Hai capito? Cretino, io vado a ricevere il premio Città di Piacenza di giornalismo assieme all'ex direttore del quotidiano di Piacenza in un ristorante. Io non metto piede in discoteca. E adesso fatti una sega, vecchio impotente di merda. Ma guardi che io non sono assolutamente ma perché se la prende con me, direttore? Di merda. Perché solo gli impotenti fanno questi giochetti e tu fai parte di quella banda di delinquenti. Sì. E c'è l'associazione a delinquere che mi hanno martellato. Sì. Sì, sì, ma c'è una denuncia ben precisa nella quale inserisco anche te. Io ho ricevuto 6.000 telefonate, vecchio cornuto che non sei altro, sì. Perché sai, la moglie è cornuto, sei. Sì. Hai finito? Ma io le chiedo soltanto se va in discoteca, giuro, direttore, se va in discoteca. Io ti giuro sulla mia famiglia che esco da qui dopo questa telefonata e ti denuncio immediatamente. L'associazione a delinquere è finalizzata alla violazione della privacy, minacce e insulti. Ma gratis. Che minacce? Le chiedo se no, ci vediamo in discoteca. In discoteca, direttore. Dicendo, vecchio porco. Ma io non sono vecchio porco. Ti giuro che esco da qui e ti denuncio. Perché se io stasera non vado in discoteca e quindi vado a ricevere invece un premio intitolato ad una città. Ma questo è interessante, tu vero? Tu sai che tu stai offendendo. Ma io non offendo nessuno, direttore. Ma ci mancherebbe. Non mi permetterei mai. Tu intanto. Ah, e lo dirò stasera se vado lì. Tu hai offeso, metterò scritto il tuo numero, hai offeso la città di Piacenza dicendo che è città di buffoni. Va bene? Adesso sono cazzi tua. Ma scusa, ma che c'entra? Che c'entra la città di Piacenza? Non ho capito. Ma poi la madre, se l'è no, presa io con la madre. Devo dire la verità, la gente che chiama sono veramente dei figli di puttana. Devo dire la verità, sì. Cioè quelli che chiamano continuamente. Poi ci mandano le cose a noi, io non ne posso fare a meno, perché poi sono drogato di queste cose qui, non posso fare a meno di metterle in onda. Però, devo dire la verità, questa è anche una nostra denuncia, bisogna dire, una nostra denuncia che è quella, smettetela di chiamare Fede, perché veramente non se ne può più. Chiamate Fedez. Chiamate Fedez, sì, non chiamate Fede, chiamate Fedez, bravo. Chiamate Fedez, ogni tanto qualche cosa giusta la dici, Grazie. Qualche grazie, cosa grazie. Geniale la dici. Ecco, non grazie. Chiamate più Fede, chiamate Fedez. Fedez, esatto. Edoardo da Cremona, fra poco grande collegamento finale per la campagna elettorale, Parenzo, grande collegamento finale. Vai. Oh, Edoardo, pronto? Vai, dimmi. Sì, pronto, ecco. Dimmi. No, io non sopporto Parenzo quando... È reciproco. Capisce... Quando capisce che uno che telefona è appena non di sinistra, comincia a prendere per il culo. Con il fisico da stramezza di cesso che si ritrova. Ma che c'entra non il fisico, dovrebbe scusa. Permettersi ma che c'entra di prendere fisico, per scusa. Il culo la gente. Ma che c'entra il fisico? Dove mi ha visto? Certo, certo, perché lui se fosse per strada queste cose siamo non le mai farebbe. Stati a... Ma che c'è? Ma siamo mai stati a colazione? Siamo stati mai no, a colazione ma non, insieme? No, non siamo mai stati a colazione. Ecco, se ti incontro accadrà. Per strada ti do due calci nel culo, così ti sollevo da terra. Ma perché? Non più c'è, alto c'è di un po' che di sei. Violenza nelle sue parole. Certo, c'è un po' di violenza. Perché tu prendi per il culo sempre le persone, sì. Specialmente le signore. Sì. Come la signora di no, prima le dichiarava le nonnine di destra, della Lega. Nazista, eccetera. Le nonnine, beh, sì, quella era fascista dichiarata, mi pare, no? Ho capito, perché la prendi per il culo? Lei non ha il diritto di esporre la sua opinione. Tu sei troppo sei prepotente perché ti sì, se ti uno è un fascista, ha diritto di sentirsi. Se fossi per strada, probabilmente non lo faresti. Sì. Scusa, però uno anche, c'è anche il diritto di pigliare per il culo la gente, eh? Cioè, no, come no? Edoardo, come facile pigliare per il culo. Questa trasmissione nasce sul fatto che noi veniamo presi per il culo, veniamo attaccati. Tu puoi dire le peggio cose su Cruciani. Ma lascia perdere come sono diverso. Ha un'intelligenza diversa da quell'altro. Ma lascia perdere, questa è una questione di gusto. Questa è una questione a te non piace Parenzo. Benissimo, sono orgoglioso di questo. Quando dice delle cose sensate. Non ho capito. Ma non quando prende per il culo la gente. Ma qui siamo qui per questo le anche nonnine, esatto, siamo qui anche per ricevere applausi e sputi, ma la nonnina sì. Padana tipica di questa trasmissione, ma non è vero, va... non c'è nessuna nonnina padana, non dire cazzate, nonnina, di padana, in quel caso era una cartomante romana, non c'entra una mazza, ma, capito, e poi non, allora, mettiamo in ordine, mettiamo in ordine le cose, mettiamo in ordine ragazzi, trattasi di cartomante fascista. Allora, già se uno va a descrivere, dice, cosa hai fatto oggi? Allora, guarda, ho intervistato una cartomante fascista. Vabbè, una cartomante, ma sì. Uno può essere cartomante e può essere anche fascista. Dai, sì, basta, dai, vabbè. basta. Parenzo, ti voglio fare un regalo per questo ultimo giorno di campagna elettorale, eh? Molto bene, molto bene, molto bene. Maurizia! Eccomi qui, sono qui in mezzo alla strada, come al solito, a battere il marciapiede. Come stai, Maurizio Paradiso con noi? Applausi! Ecco, applausi! Mi manda Cruciani! No, mi manda la Zanzara, devi dire. Chiedi alla gente chi vota. Chiedi alla gente chi vota a modo tuo, allora, in mezzo alla strada a Milano. Allora, mi manda la Zanzara, io sono la iena della palla piena. C'è già una persona che dice io odio Cruciani, te lo passo. No, ma che mi passi? Che cazzo dici? Ma chi è? Primiti. Signore, non parla, è calabrese, sai che giù in fondo all'Italia non si vede, non si sente, non si parla, però c'è qui un altro giovanotto. Lei domani, per la Zanzara, lei ci deve dire cosa voterà. Ma domani, domenica, amica domani, mia. Domenica, finalmente noi risolveremo il problema, eleggeremo quello giusto, eleggeremo quello che non ruba niente, anche se i soldi saranno lì a portata di mano, eleggeremo il santo votato. Ti passo un uomo calabrese. Pronto? Pronto? Sì. Chi votatemi a me che cambio io l'Italia, va bene? Ma chi voti tu domenica? Io non posso votare. Perché non puoi votare? Perché mi hanno tolto il diritto al voto. E perché ti hanno tolto il diritto al voto? Dell'Andrangheta? Perché dice che sono stato cattivo. Ma che sei stato? Dell'Andrangheta? Che eri? No, ma assolutamente. Ma non scherzo. E agli arrosti domiciliari, è un delinquente. Vabbè, passami di nuovo Maurizia, va. Ciao. Eccoci qua. Ma Maurizio, ma devi chiedere tu alla gente per chi vota. La gente che lo sto fermando per la strada. Allora, ho poco su bel duro. Signora, mi manda la Zanzara, mi manda Cruciani. Domani ci sono delle votazioni domenica. Serie. Domenica, quindi anche il nostro ex premier Berlusconi, il nano del Circo Medrano, ha detto che bisogna andare a votare anche per un minuto, perché è veramente importante. Lei cosa farà? Lo dica alla Zanzara, per favore. Ecco, lo dica. Ma non è, ma è anticostituzionale non votare, signora, perde i suoi diritti. Va bene che i diritti non li ha mai avuti. Brava, per questo non voto. E allora quindi io li mando tutti a fare in... Ma dov'è? In? Ma lo dica, signora. In... Niente. Non lo niente. Vuole dire, ferma un'altra, ferma un'altra. Vai avanti così, allora, avanti. Allora, che cazzo, fammi vedere. Allora, mi manda Cruciani. Mi manda la Zanzara. Domani è importantissimo votare, dai, perché dai. Cambiamo domenica, tutto. Sempre. Pensate che quei pirloni che andranno su domani cambiano l'Italia, ci hanno fatto promesse. Non è vero. Dica qualcosa a Cruciani, prego. Salve Cruciani. Salve, per chi voti domenica? Sì. No, io domani non voto perché domenica, abito sempre. A Sesto. Ah, abiti a Sesto, dunque a Sesto non c'entra niente. Purtroppo non voto, perché se avessi votato... Ma come sta Paradiso? Come sta? Come sta Maurizio? Paradiso, sì, sta bene, dai, sempre in forma. Sempre alla grande, sempre alla grande. Saluto il mio fratello Daniele, che vi ascolta sempre. Ciao, fratello, ciao, fratello. Grazie, chi se ne fotte di Daniele? Dai, andiamo avanti, devo vai avanti. Aspetti, ma ci sono delle persone qui in macchina. Ecco, la signora, c'è una signora col bambino, scusami. La trasmissione di Cruciani, la Zanzara, Radio 24 News. Domani, domenica si vota. Ed è un voto importante perché cambia tutto. Reportage, però. Finalmente. No, è importante perché tutto quello che ci hanno promesso si avvera. Sì. Lei cosa voterà, signora? C'è Cruciani in persona che parla con lei. Non lo so. Chi voti? Lei voterà, signora. Nessuno sa. Voto. Per chi vota, signora? Dillo. Pronto? Ma signora non può dire sto cazzo, Cruciani, ha sentito? Ma come sto cazzo? Ma la signora si aveva il bambino in braccio, aspetti, gliela ripasso. Signora, no, sia più seria, sia più seria. Lei cosa voterà domani? Domenica. Lo ribadisca. Sto cazzo! Ah, ecco, ha capito, Cruciani. No, no, tutta Cruciani, il signore c'ha il bambino in braccio, guarda, gli passo il bambino. Bimbo, vuoi dire ciao a Cruciani, che siamo in radio, che siamo in radio, dillo, di ciao. Adesso dice sto cazzo pure lui, aspetta. Non lo dice il bambino, è ancora nell'utero, ascolta. Dimmi, amore, dimmi ecco, tesoro, guarda che comunque ragazzi, è un'inviata. Com'era hop hop hop din din din, com'era hop hop hop? Hop su bel duro, ve lo farò diventare duro come la coda di un canguro. C'è un altro signore, giovanotto, invece di fumare, ragazzi, che fiume è un'inviata pazzesca. Prima che fiume la Cristina, domani cambia l'Italia. Domenica cambia l'Italia perché votiamo, finalmente vanno su quelli bravi che non rubano, quelli onesti. E quelli... Allora, a me mi manda Cruciani, sei in onda su Radio 24 News, la Zanzara, prego, News. Il telefono è tuo. Big News. Sì, buonasera. Allora, lei sì. Cosa voterà domani? Domenica, sì. Sto cazzo. Ma no, ma no, ancora sto cazzo. No, adesso, tutti lui, aspetti, ti ha istruito, signore, ti ha istruito lei. Una persona seria. Lei è di Milano? No. Di dov'è? Calabria. No. Calabria. Tutti calabresi, insomma, che cazzo è andata? In mezzo... Aspetta, ve lo passo, lo lascio a voi. Questo sì. Signore calabrese, il mitra ce l'ha in mezzo alle gambe. Ve lo passo. Dica a Cruciani, a Parenzo, che cosa lei voterà domani. Miglia. Domenica, sì. Sì, signor buonasera. Calabrese, buonasera. Ma perché sì, lei non... Perché lei non vota, lei? No, io vado a votare, come no? Ma dove, a Milano? A Milano. E chi vota? Voto Sardone. Chi è Sardone? Ah, sì. Una che è Forza Italia, che è? Sì. Forza Italia, non si può dire adesso. Sandra, sì, sicura di Forza Italia. Vabbè, voti per Parisi allora, per Parisi. Parisi, sì. Ma Parisi. Tu che sei calabrese di dove? Di Cosenza. Ma segui la Zanzara o no? La segui la Zanzara o no? La seguo. Mi raccomando, amico mio, una cosa più importante. Tutti i santi qua. Aspetta che c'è un signore che sta scappando. Ma tu chi voti, Maurizio? Maurizio, chi voti tu? Tesoro, scusa. Gioia, ma perché scappi? Ma che coglione, c'era quella Maurizio Paradiso e scappi. Poi dopo volete trombarmi tutti, sognate di trombarmi attaccati ai lampadari. No, sto parlando con uno che è scappato. Ma non è c'è vero. Un signore al banco, ma aspetta. Giovanotto, io sono l'inviato speciale della Zanzara, di Cruciani. Domani a Milano si vota. Lei che domenica cosa voterà? Lo dica sinceramente che cosa voterà mentre sta facendo il banco. Ma cosa vota domani? Vediamo, non sono deciso ancora. Questa bisogna è valutare sudamericano. Bisogna valutare ancora, ma destra, sinistra o centro? Lei sarà democratico come il mio Regipetto, che sostiene la destra. Stupendo. Sostiene la sinistra o va dritto al centro? Mi piace la democrazia, mi piace tanto. A questo signore piace la democrazia, mi scusi se l'ho disturbata. È al bancomat. Appena che è appena entrato un ladro di biciclette, aspetta. Vai, sei stupendo, amico, sei stupendo. Tesoro? No, devi venire qui un attimo, aspetta, devo... Vieni, sono su Radio 24 News con Cruciani. Sto News, perché News? Allora, domani, io sono Miranda Cruciani, direttore cosa cazzo napoletano. Voti domani? Ecco, perché domani, domani viene votato il santo a Milano, quello che risolve domenica i problemi, sempre, e Milano e Roma cambieranno. Cosa voti? Dillo alla Zanzara, a Cruciani. Anche a Torino. Che cosa cazzo vuoi che voto domani? Voterò per la figa. Ma no! Ma dove li trova tutti questi intellettuali qui? Che quartiere è? Maurizia, che quartiere è? Ma no, ma io sei? Chi voterei io? Chi voteresti tu? Chi voterai? Guarda, allora, chi si astiene dalla lotta è un gran figlio di una mignotta. Sempre, primo. Sempre, sì. Secondo, sì. Io domani, aspetta, c'è un altro signore con la magliettina verde. Domenica. Scusi, Radio 24 News, mi manda Cruciani. Non è siamo news. Alla Zanzara in diretta. Bisognerebbe mandarla al giornale radio. Domenica bisogna votare. E sai che votando domani noi avremo qualcuno che non ruba più. Il comune sarà salvo. Le passo Cruciani. Chi vota lei? Prego, è in linea con Cruciani. Io non sono di Milano. Non sei di Milano. Uno che vota a Milano, l'abbiamo trovato. Uno ha detto sto cazzo, l'altro è calabrese, l'altro non sa che votare. Non penso l'occasione per dirgliene quattro, è più amato e odiato. No, vabbè, comunque non ho niente contro di lui. meno male. Ma stai parlando con lui? Certo, certo. No, eh. Già ciao detto, amico mio, ciao fratello, dove abiti? Dove abiti? Votare, avrebbe votato. Io abito in provincia di Como. Ah, in provincia di Como, vabbè. Beccane uno di Milano, Mori, ciao amico mio. Maurizia, ciao, ciao. Siamo alla conclusione, allora, beccane uno di Milano, sei meravigliosa, dimmi. Allora, il signore provincia di Como, aspetta, c'è un giovanotto che il signore che sta fumando una sigaretta. Becca allora, giovanotti, vai. Che... Domani, questo signore lavora in fonderia, mi ha detto. Infatti ha tutta la faccia rossa, mezza bronzata. Non è che lavora in fonderia, adesso non so in che cazzo di fonderia lavora, ma lavora. Domani c'è da votare qui a Milano. Domenica perché sempre. Domenica abbiamo le ali, vogliamo, praticamente ci infiliamo un siluro a posteriori e si vola. Hai capito? Vola con tutto è meglio di qualsiasi inviato, tu lo sai, no? sì, so, lei in diretta con Cruciani e Parenzo alla Zanzara, lei sì. Cosa voterà? Prego. Che ne so. Ma ce l'hai uno a Milano per chi voti? Il sindaco per chi... cazzo, ma no, sempre quello me lo smetto. Ma sei tu che ecciti queste cose. Tu ecciti queste cose. Niente, nessuno. Chi voti? Destra, sinistra? Lo voti Berlusconi? Dagli un bacio sulla lingua. Maurizio, dagli un bacio sulla lingua. Ah, quindi voti l'inciuccio. Facci una limonata, facci una limonata. Maurizio, facci una limonata, vai. Limonaci un po'. Vale. Maurizio! Che devo votare. Maurizio, ma non devi fare scheda bianca, diglielo Cruciani, perché con la scheda bianca poi ti ci pulisci il culo. Quello sempre. Maurizio, facci una limonata con questo qua. Facci una limonata con questo, dagli un bacio, dai. Aspetta, no, questo è un signore che ha tanti anni che è integrato qui in Italia, infatti è talmente integrato che ha messo le radice sotto la tomba di sua nonna, ecco. Ciao amica. Ascolta, mia, devo salutarti, ti aspetta, bacio, dai. C'è una ciao. Ragazza e c'è una donna. Beh, facci una limonata, dai, facci una limonata con questa e basta, dai, facci una limonata. Scusa. E basta. Domani sei italiana? Vai, concludiamo, ragazzi, ci sentiamo lunedì, ciao, vai. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.